Ciao, sono Federico, ascolto Runtime Radio da Monte Olimpia. Sei su Runtime Radio, la talk radio geek. Dai, accendi. Runtime Radio, siamo tornati. 2021, yeah! Runtime Radio presenta Ludico Forum. Carissimi amici di Runtime Radio, bentornati a questo nuovo episodio di Ludico Forum, con un po' di ritardo per problemi tecnici, perché stiamo facendo tante sperimentazioni, proviamo nuovi sistemi per poter comunicare tra di noi e per poter comunicare con voi, però insomma ci vuole sempre un periodo di adattamento quando si provano nuovi software, e ne proveremo anche altri perché chiaramente non c'è mai pace alla nostra sperimentazione. E faccio soltanto due piccoli disclaimer velocissimi prima di presentare chi è con me a questa puntata. Molte persone, compresa una persona che è qui, hanno fatto notare che durante la puntata scorsa, sia durante il live streaming che durante la riproduzione in podcast, il numero di spot pubblicitari presenti erano in sovrabbondanza, insomma, ma in maniera anzi quasi fastidiosa. Allora, questa cosa noi non l'avevamo considerata, non avevamo fatto delle verifiche molto probabilmente, però è Spreaker che è diventata una macchina assassina dei soldi e da una parte ci restituisce una buona monetizzazione, dall'altra comunque crea problemi, perché se non stai attento ai setup praticamente fa delle impostazioni di default che sono veramente micidiali. Dall'altra, la seconda considerazione è che, come stiamo pubblicizzando oramai da una settimana e continueremo a farlo, da lunedì Runtime Radio diventa effettivamente una web radio full 24, con uno streaming sempre attivo e con un palinsesto sempre abbastanza abbondante, anche perché noi veniamo da 10 anni di produzione di podcast. Ci sarà anche un racconto della nostra storia all'interno, in più ci saranno varie repliche dei podcast che comunque continueranno a essere sempre presenti su Spreaker, ma ci saranno anche le live esclusive e live in contemporanea con Spreaker, per chi ovviamente è abituato ad utilizzare quel tipo di chat e quel tipo di strumento. Detto questo, ragazzi, diamo il via alla puntata. C'è un grande ritorno insomma, che ogni tanto riciccia, ma insomma è bentornato a casa, Carlo Burigana. Grazie a tutti, grazie, è un grande piacere, un grande onore, un grande tutto, insomma. Grande tutto. Un po' come ritornare a casa dopo un lavoro, capito? Senti, è sempre quella bella sensazione lì, capito? Della famiglia. Oppure dopo un lungo viaggio, tipo una cosa un po' alla Ulisse, diciamo così, no? Che ci piace. Esatto, un po' come tornare a fare la cacca nel proprio bagno. Bravo, bravo. Non parlare di cacca, perché come sapete ci abbiamo una nuova cucciola dentro casa che insomma è una battaglia, una grossa battaglia, ma ce la faremo a farle fare la cacca dove si deve. E ci stiamo riuscendo anche. Abbiamo invece per la prima volta, penso, mi pare per la prima volta, anche se noi insomma lo conosciamo, abbiamo avuto modo di interagire tante volte, abbiamo mangiato insieme, abbiamo mangiato dei cioccolatini, e non so come lo devo presentare, io lo presento con nome e cognome perché questo è, è quello che è. Ci abbiamo Arturino Mazzei. Ciao a tutti, grazie per avermi invitato, è sempre un piacere stare con voi, ascoltarvi e per la prima volta discutere in diretta con voi. Benissimo, Arturino è presente perché tante volte ci faceva delle annotazioni anche tecniche su alcuni aspetti relativi, insomma, a tecnologie che noi affrontiamo, insomma, e siccome che poi alla fine finiamo sempre per magari per essere un po' approssimativi su certe cose, anche se magari non è questo il caso, in altre situazioni magari è capitato, e diciamo insomma che è giusto, ci ha fatto piacere e poi ci fa comunque piacere insomma avere comunque una persona che ci aiuta anche a capire cose, perché con lui sicuramente impareremo qualcosa. C'è l'intro classica di Ludico Forum, che chiaramente essendoci Carlo Burigana, che è l'autore della sigla ed è stato l'autore degli assets di insomma di Runtime in generale, tante volte, però giustamente lui ci siamo detti, ma se c'è l'intro parlata su Ludico Forum e ci sono io in puntata, come possiamo non fare un'introduzione come si deve? Quindi ascoltate, certo, questa bellissima introduzione. Ciao, io sono Leo Bargion, sono la voce che di solito fa le intro di Ludico Forum. Per quelli che ascoltano questo programma, in realtà sono questo, una voce narrante. Ma questa è una intro diversa dal solito. Oggi parliamo di magia. Ora, io sono qui, fermo, in un ambiente che per voi è indefinito. Ma se faccio qualche passo avanti, anche se voi non lo vedete, arrivo in prossimità di questa barriera magica. È solo attraversandola che il linguaggio diventa tridimensionale e il racconto acquisisce profondità. Posso trasportarmi in un'antica cattedrale sepolta da millenni. Oppure trovarmi nel bel mezzo di un conflitto medievale. O nello spazio. Questo solo per dire che la stragrande maggioranza delle forme di intrattenimento di oggi sono fondamentalmente un connubio di medialità e che senza il suono quello bello, quello che ci fa sentire di vivere una magia, tutto sarebbe più piatto. Per questo, ora ci mettiamo comodi e iniziamo a discutere sull'importanza dell'audio in questa ultima generazione di dispositivi per l'intrattenimento. Buon ascolto. Shh. No. Silenzio. Bene, allora è un po'. Io non voglio fare il piaggione, come si dice, insomma. È come se tu vai da Caravaggio e dici: oh, ammazza il bel quadro che hai fatto. Quindi è inutile fare i complimenti a Carlo e anche ovviamente a Leo Varghion, che ha prestato la voce nello spiegheraggio per questo lavoro introduttivo, che in effetti in realtà rende un po' il concetto di quello di cui anche parleremo in questa puntata. Ma insomma, soprattutto ho dimenticato di dirvi che vi conviene, quando lo riascolterete in podcast, mettervi le cuffie, perché chiaramente sicuramente perderete molto, no, della profondità del suono senza poterlo ascoltare ovviamente con le cuffie. Detto questo, allora ragazzi, io partirei un attimo da Carlo, giustamente, perché facciamo una piccola introduzione. Carlo, al di là di aver sì. fatto parte con noi, insomma, di videoludica.it e via dicendo, si è sempre presentato con quella che è un po' la sua passione, il suo lavoro, che è quello del sound design, il doppiaggio, di tutto quello che è l'ambiente audio. Però diciamo che in prima persona lui ha prodotto comunque un podcast, anche se una stagione fatta di quante? 6-7 puntate? 8 puntate, che era Passione Sound Design, che secondo me è stato un prodotto che ci ha avuto un grosso successo e che noi riproporremo anche nella web radio, chiaramente, perché insomma, anche se alcuni giochi possono sembrare un po' datati, insomma. Ecco, la prima domanda che ti faccio, Carlo, parlando proprio di suono, è che il suono all'interno del mondo del videogioco ci ha sempre avuto la sua importanza, no? Chiaramente, perché comunque aiutava anche, era anche, come posso dire, propedeutico anche al gameplay qualche volta, no? Però quando certo. il suono, quindi da semplice suono, è evoluto nel mondo del videogioco e quando hai iniziato magari ad affascinarti anche questo tipo di aspetto? Ma se parliamo proprio a livello personale di quando il suono ha fatto breccia nel mio cuore, è questo che mi stai chiedendo, oppure proprio per massimi sistemi, dicevi tu, diciamo, quando il suono ha cominciato a facciamo entrambe le cose, cioè per te e soprattutto quando nel mondo dei videogiochi il suono ha assunto delle dimensioni più spaziali, più professionali, più industriali, ecco, diciamo così. Certo, ma guarda, sicuramente parlando così a livello personale, ma credo di poter parlare anche proprio a livello così di industria, penso quando il suono ha cominciato a essere un pochino più, diciamo, ha superato, ha varcato quella che era un po' la barriera tecnologica che lo teneva, diciamo, un po' così alla base di quelli che erano i suoni del tempo, insomma, no? dell'8-bit, di tutte queste cose qui. A livello personale, forse il prodotto che mi ha più colpito dal punto di vista sonoro e che un po', diciamo, ha cominciato a farmi notare quantomeno, insomma, che si potesse fare del bene anche a livello sonoro a un videogioco, cosa che probabilmente a quel tempo nessuno ci aveva neanche mai pensato, è stato con Half-Life. Perché Half-Life, esattamente come per quanto riguarda a livello, posso dire video, diciamo, e a livello anche narrativo, è un prodotto, diciamo, quanto più simile, quanto più aderente, uso un parolone, a quella che è un'opera cinematografica, cioè quindi si discosta comunque da quelli che erano i canoni del genere videoludico del tempo, anche degli sparatutto in prima persona che potevano essere Doom, i Quake, non so, ce n'erano diversi, e porta comunque il racconto ad uno step superiore, e con il racconto si è portato dietro pure la parte tecnologica e non ultima ovviamente quella audio. Per cui quello è stato secondo me un po' quello che potremmo chiamare il game changer. Sicuramente ce ne saranno stati tantissimi altri anche in passato, non metto in dubbio, però diciamo così, secondo me Half-Life rappresenta, e credo di poter parlare a nome anche di tante persone che ci ascoltano, comunque è stata un po' in qualche modo un cambiamento di stato proprio del videogioco, che è uscito un po' fuori dal bozzolo di quelle che erano l'approccio del tempo prima, per poi diventare quello che invece è quello che conosciamo adesso, quindi delle avventure di stampo cinematografico, tanto dal punto di vista narrativo quanto dal punto di vista audiovisivo. Certo, quindi praticamente tu dici che Half-Life rappresenta una sorta di spartiacque tra quando il suono si spostava a destra e a sinistra e quando il suono ha cominciato ad assumere una funzione proprio narrativa, oltre che semplicemente... Sì, ovviamente, vabbè, era solo una funzione narrativa, come dici giustamente tu, perché i tempi non erano ancora maturi per il suono spaziale che conosciamo adesso, e per il modo di intendere anche proprio un mix di un prodotto sonoro per un videogioco. Siamo distanti proprio anni luce da oggi, però sì, assolutamente sì, secondo me andava a creare poi un'atmosfera che poi secondo me si è proprio sublimata in assoluto sul 2. Il 2 crea delle suggestioni sonore che sono, se vogliamo, anche più importanti di quelle che tu vedi proprio. Quelle che ascolti, le cose che ascolti sono ancora più, ti raccontano molto più di quello che sta succedendo nel gioco, di quello che il gioco ti vuole trasmettere, anziché poi solamente basandoti su quello che vedi. Eppure io vado un po' a memoria, qui magari chiedo anche l'aiuto di Arturino, perché non so se lo ricorda bene. Quando c'è stata l'era del primo Unreal, no? del gioco, e della Sound Blaster AUI32, no? Che portava sto pseudo suono 3D, no? Quindi questi tentativi, insomma, di portare. Io devo dire che la prima volta che ho giocato Unreal dal punto di vista acustico mi impressionò molto. Cioè, proprio all'inizio, la famosa scena di una porta che prima di aprirsi si sente tutte queste persone che muoiono, che mi faceva impressione, cioè nel senso mi aveva dato veramente una suggestione. Lì probabilmente ci siamo resi conto che anche nel mondo del videogioco il suono, come nel cinema, può diventare una parte importante. Ti ricordi tu, Arturino, le prime schede che provavano a buttare lì, diciamo, una bozza dei 3D? Già la prima EVE 32 era un cambio totale delle possibilità sonore che c'erano per i PC, ma già anche prima l'Amiga ha cambiato un po' tutto, dal beep beep del Commodore 64 a una polifonia che all'epoca sembrava incredibile. Io ho sempre guardato un po' le cose un po' dal lato tecnico, quindi quando uscì il primo Monkey Island, il secondo con gli Muse, il sonoro che cambiava in base a quello che facevi, quello era già la manna dal cielo, come vedere un arcobaleno a ciel sereno. O quando uscì il primo Street Fighter 2, che la Capcom introdusse il Q-Sound, quindi questa prima volta che per un videogioco, in questo caso un arcade, che il suono era tridimensionale, cioè sentivi i combattimenti, i colpi che venivano o da destra o da sinistra. Questo era un game changer totale per l'epoca, stiamo parlando degli anni 90, quindi molto molto distanti da adesso. Sì, che poi tornando a parlare della io la chiamo la AVE32 perché sono ignorante, no? Che mi ricordo che costò pure un sacco di soldi, io la pagai un sacco di soldi quella scheda, e devo dire che poi c'aveva tutta una serie di anche, cioè nel senso pure i suoni MIDI integrati, cioè insomma tutta una serie di cose che in effetti anche per chi sperimentava un po' con la musica era veramente una gran bella scheda. Però io mi sono sempre domandato, quando Carlo nel mondo del videogioco è apparsa la figura del sound designer, e poi cerchiamo anche di capire un attimo che cos'è un sound designer, perché noi ne abbiamo parlato tanto negli anni, però poi alla fine non ci siamo mai focalizzati, no, pure su sta cosa. Ma la figura del sound designer nei videogiochi è una figura un po' arcaica, secondo me, insomma, prima semplicemente non si chiamava sound designer, era il programmatore che decideva quali suoni integrare nel gioco. E sì, insomma, diciamo il sound designer, perché per come lo conosciamo adesso, che per chi se lo stesse domandando è sono le persone che fanno il mio mestiere, cioè andare a ricreare un ambiente sonoro dove c'è il completo mutismo, diciamo, dove c'è un'immagine senza suono. E per comparto sonoro intendo una base musicale per chi fa il musicista. Io personalmente non lo faccio, ma non è un invalidante per il mio lavoro, e diciamo va a ricreare tutta quella che è la cosiddetta foley, che non so, anche in una stanza chiusa e vuota, come ci ha insegnato Leo Vargheon poco fa, comunque un suono c'è. Noi magari lo diamo per scontato, quindi diciamo che non ci sono suoni in quella stanza, però in realtà c'è, è un ronzio magari di un traliccio che sta fuori dell'elettricità, certo. O che ne so, l'aereo che passa a 10.000 km di distanza o di altezza, o i bambini che giocano nell'appartamento accanto, che ne so, quelli sono tutti suoni che esistono e all'interno di un ambiente, e il mio mestiere è quello di ricreare un ambiente e di renderlo credibile tanto dal punto di vista sonoro, diciamo partendo da quello che è il punto di vista visivo che io ho a disposizione. Quindi praticamente tutti quei suoni che il cervello nelle condizioni normali tende a bypassare, perché so, suoni di normalità, diciamo così, invece il sound designer li integra per ricostruire la stessa normalità poi alla fine. Assolutamente sì, ed è poi oltretutto è un passaggio, nel momento in cui tu fai questa cosa tu capisci quanto è difficile in qualche modo anche miscelare in sé per sé questi suoni, questi ambienti che tu vai a ricreare. È, diciamo, tra virgolette difficile creare una sensazione che possa essere una sensazione universale, se vogliamo, di quella che è la percezione che tu avresti stando in un ambiente, perché ognuno, diciamo, dal punto di vista sonoro, come ovviamente anche dal punto di vista visivo, però il sonoro è un ambito ancora più infame da questo punto di vista, ognuno ha la sua sensibilità, e la sua sensibilità è quella che detta legge. Se tu pensi, se io ti faccio sentire un suono, se lo faccio sentire a te, lo faccio sentire ad Arturino, lo faccio sentire a 20 persone che ci stanno ascoltando, magari tu dirai questo suono è un suono piacevole, è un suono caldo, per dire. Arturino dirà questo suono è un suono sì piacevole, ma non è un bel suono, è un suono un po' troppo basso. 10 persone ti diranno no, questo suono è stridulo, altre persone ti diranno ma io sento poco questo suono, non so che cosa devo sentire. Quindi da quel punto di vista, diciamo che con l'immagine, se forse sei più vincolato a determinati standard da rispettare per riuscire a replicare un qualcosa sullo schermo, col suono invece tu hai veramente tanta tanta tanta libertà, e quella libertà molto spesso è un'arma a doppio taglio, e la devi saper usare veramente molto molto bene per riuscire nel tuo intento, insomma, di ricreare un qualcosa. Perché rischi di saturare, dici, anche un po' l'ambiente. Rischi di saturare, rischi soprattutto di prendere fischi per fiaschi, perché o distrarre magari, anche esatto. Magari, che ne so, pochi sanno che per esempio il suono mi viene in mente un suono iconico che ha fatto un po' scuola, che poi non ha fatto scuola perché è veramente, diciamo, nel mio ambito è un po', come dire, l'ABC in qualche modo, no? Di partire da qualcosa di completamente diverso per andare a illustrare qualcosa di invece molto concreto. Probabilmente tra le persone che ci ascoltano, oltre ovviamente noi tre, ci mancherebbe, ci ricordiamo Lost e ci ricordiamo anche X-Files. E ad esempio su X-Files c'era quello strumento, forse vi ricordate, che era una specie di pugnale che slittava sostanzialmente, era una sorta di pungolo che usciva fuori da un cilindro metallico lungo e stretto e serviva per pugnalare alla base del collo quelli che erano gli alieni, adesso non mi ricordo bene, comunque gente sì, che era sì. infettata con un determinato, e dice praticamente per ricreare quel suono, dice, sono state fatte centinaia di tentativi con qualunque tipo di strumento affilato, qualunque tipo di, non lo so, hanno provato a campionare dei suoni, a riprodurli, hanno provato addirittura a registrare proprio dal vivo determinati suoni per cercare di creare quell'effetto metallico del pungolo che usciva fuori a scatto nel momento in cui si premeva, insomma, questo tasto su questo cilindro, e alla fine il suono che è passato ed è diventato il suono di quella cosa è stato un F, cioè hanno registrato un F ed è stato quello, funzionava, un F. Certo. È un soffio ed è diventato quello il suono. Quindi, come vedi, insomma, a volte anche avere, diciamo, gli tanti strumenti tecnologici a propria disposizione non è sempre la salvezza per creare qualcosa di, diciamo, per riuscire nel tuo intento a creare qualcosa. A volte la cosa più semplice che tu hai, non lo so, che ti ritrovi nella tasca è la cosa che può fare la differenza. Ma infatti è proprio su questa cosa di costruire il suono che mi viene in mente, vai, faccio vediamo se Arturino mi segue in questa cosa, perché io e lui siamo un po' più vecchi, quindi probabilmente ci capiamo da sto punto di vista, perché con l'era della digitalizzazione, no, diciamo che i suoni all'interno del mondo dei videogiochi entrano digitalizzati, diciamo, poi magari modificati, riassemblati, insomma plasmati, equalizzati, quello che vogliamo, no? Però nell'era antecedente, se tipo tramite, insomma, i chip del Commodore 64, dove difficilmente potevi digitalizzare un X numero di suoni all'interno di un videogioco, se non magari, che ne so, la frase iniziale di Impossible Mission, tutto il resto era una costruzione del suono, no? Utilizzando appunto proprio quello che erano i processori audio. Cioè, è una programmazione del suono, quindi c'è proprio una, diciamo, la specializzazione nel mondo dell'audio, Arturino, secondo me c'è sempre stata, soltanto che parte proprio dal basso ed è evoluta, non lo so, esponenzialmente durante poi i decenni. In quell'epoca avevamo i chiptunes, i quattro canali del Commodore 64, per esempio, un'onda quadra, una triangolare, e facevi tutto con quello, quindi c'era molta fantasia, creatività e quel tipo di sonorità oramai, per chi è un pochino più anziano come noi, è rimasta nel nostro sangue, ci fa venire sempre quell'emozione quando sentiamo quelle tonalità che sono molto particolari, molto metalliche anche, ma è qualcosa che è oramai impresso nel nostro subconscio. Adesso c'è stata tutta una rivoluzione dalla digitalizzazione e la campionatura, oramai il suono è praticamente più reale di quello che ascoltiamo tutti i giorni, è pulito, non è grezzo come il rumore che possiamo avere camminando per strada, è un rumore ovattato, e probabilmente Carlo potrà confermare che anche nei videogiochi si cerca di rimuovere questa vettatura e renderlo più sporco per renderlo più naturale, più reale. Sì, sì, è vero, è vero. Immagino anche nei film sia la stessa cosa. Un suono troppo pulito non va bene. Mi ricordo ancora i tempi passati con Alien Breed, il rumore, il suono degli alieni era lo stridolio di un gattino che era tutto rimodificato, ma in realtà era il miagolio di un gattino, e tutti si preoccupavano: hai fatto male al gattino? No, stava miagolando, nulla di speciale. Povero gatto, che gli hai fatto il gatto? No, poi Carlo, secondo me, anzi no, secondo me, la domanda te la faccio a te. Abbiamo detto della grande evoluzione nel mondo dei videogiochi, ma vabbè, tu hai fatto anche degli esempi sull'intrattenimento più tradizionale, che è quello delle serie TV, no? Tipo anche Lost, no? Però, ecco, ritorniamo un attimo ai videogiochi, poi magari andiamo un po' oltre, perché c'ho due domande importanti, una per te e l'altra secondo me è una riflessione più generale che riguarda tutte e due. La prima me la sono scordata. E questa è la cosa bella che benissimo. Partiamo assolutamente bene. Quindi, eccola qual era. Quanto tu dici, vabbè, nel senso, a volte possiamo definire il sound designer nel mondo dei videogiochi una figura anacronistica, perché, boh, vabbè. Però diciamo che quanto il lavoro, quindi l'ingegneria che sta nel suono di un videogioco oggi è paragonabile a quello del cinema, secondo te? No, secondo te, cioè secondo quello che tu sai, chiaramente. Ma guarda, ti dirò, insomma, questa domanda, forse questa risposta forse un po' ti stupirà, nel senso, sì, sebbene sia di fatto lo stesso campo da gioco, perché di fatto, cioè, quello che fa il sound designer all'interno, cioè no, all'interno, quello che fa un sound designer per un videogame è quello che farebbe più o meno un sound designer per il cinema o per la televisione, per sonorizzare dei prodotti televisivi o cinematografici. E l'unica, diciamo, differenza, secondo me, grande, sono diciamo una differenza molto più relativa alla creatività, intesa come non creatività, diciamo, di quello che tu vai a fare, di quanto sei bravo a andare a fare quel mestiere, diciamo, nel videogioco o piuttosto che in un film. Molto spesso nei videogiochi un po' si tende a cercare un po' di creare veramente qualcosa di molto originale, e questa cosa lo si fa invece molto meno nell'industria cinematografica, a meno che appunto non entrino in scena i grandi nomi, i grandi registi, come potrebbe essere per esempio, ecco, un regista che secondo me si sforza veramente a tutti i costi di creare qualcosa di originale dal punto di vista sonoro, è Christopher Nolan. Lui ci ha sempre puntato, diciamo, sul suono. Lui è veramente un audiofilo da questo punto di vista, ha sempre cercato di proporre qualcosa di nuovo, e infatti molto spesso, insomma, le cose che ha proposto ci sono rimaste. Vi ricordate sicuramente il drone di Inception, che poi è riportato in Mass Effect e in mille altre, esatto, riproposizioni, esatto, sì, a volte anche dove non c'entrava niente, che ne so, passava l'autobus, no, lì vabbè, poi le contaminazioni sono innumerevoli, però ecco, sul film o sulla serie TV, quello che tu vai a lavorare, tu hai comunque una persona accanto che ha le idee estremamente chiare, perché comunque lui ha già, diciamo, il suo prodotto, il suo film lui ce l'ha già in testa, per cui tu semplicemente lo vai ad accontentare per ricreare quelle determinate sonorità che lui vuole su quel prodotto. Per quanto riguarda il videogioco invece, a volte si inventa molto. Per esempio, a me una cosa che è rimasta molto impressa, molto dentro, dal punto di vista, diciamo, che mi ha stupito moltissimo dal punto di vista sonoro, è Dead Space. Sicuramente Dead Space, se vogliamo, diciamo, parlare di prodotti fatti a maniera, sia dal punto di vista tecnico, io parlo ovviamente del mio di mestiere, quindi dal punto di vista sonoro. Beh, sì, ed è quello che parliamo. Esatto, dal punto di vista tecnico a livello sonoro, sia dal punto di vista artistico soprattutto, Dead Space è veramente un cacchio di prodotto, perché da quel punto di vista, dal punto di vista, diciamo, della creatività, si è fatto tantissimo su quel gioco, e devo dire che forse è ancora oggi, nonostante poi la saga in sé per sé si è fermata al terzo capitolo, di fatto non è più andato avanti, purtroppo, perché era un... No, hanno annunciato qualcosa, hanno annunciato una sorta di spin-off, qualcosa. Sì, perché sì, veramente sarebbe stato un peccato. No, hanno fatto vedere un teaser trailer che chiaramente fa abbondantemente riferimento a Dead Space, quindi anche se il nome è diverso, beh, poi vedremo, insomma. Però lì c'erano delle cose veramente fuori di testa, nel senso erano tutte le stanze della Ishimura, infatti io non a caso ci ho fatto una puntata di Passione Sound Design, esatto, che era più che, diciamo, orientata sul doppiaggio in sé per sé, che era la parte forse meno stupefacente dal punto di vista, parlando dal punto di vista italiano ovviamente. Sì, sì, certo. Però c'aveva un sound design, ragazzi, che era una roba, cioè andatelo a risentire su YouTube per chi non l'avesse giocato, per chi non gli facesse schifo, quello che sia, però secondo me merita proprio l'ascolto di quel coso. E poi comunque anche i jump scare erano sonorizzati benissimo, proprio era un gioco che era tanto eccessivo dal punto di vista audio, però era un eccesso assolutamente giustificato, ed era un eccesso soprattutto estremamente ben dosato. Io proprio sono veramente, guarda, ho invidiato veramente chi ha messo le mani su quella roba, perché l'avrei voluto fare io, guarda, veramente. Beh, d'altronde quando si parla di opere anche così legate all'horror, alla fine comunque salutiamo intanto Davide Gatti. Ciao Davidone, che non lo so. Buonasera a tutti. Okay. Perché in chat, ciao, lui scriveva suono quadro, se sei quadro allora partecipa alla trasmissione, insomma, anche perché insomma in qualche maniera Davide Gatti e il suono c'entrano sempre un pochino, insomma. Però ecco, dicevo, sì, che vai, scusa, amatoriale, io sono molto amatoriale. Vabbè, è chiaro, però sei comunque uno attento dal punto di vista della tecnica, no? Del discorso tecnico, anche su quello che riguarda proprio il suono, no? Quindi poi dopo magari poi rifacciamo anche alcuni riferimenti a quello che era relativo al passato. Dead Space, dicevamo, del fatto che chiaramente, come tante opere horror, dove alla fine molto si basa proprio sull'ipertensione che si crea alla fine tra una situazione e un'altra, chiaramente il sound deve essere, no? È come al cinema, fondamentalmente. Quindi qui ritorno alla domanda: quanto si sono avvicinati le due industrie dal punto di vista tecnico, Carlo? Si sono avvicinate tantissimo, tanto che il flusso del lavoro è più o meno quello. L'unica cosa che, come dicevo prima, insomma, differisce, oltre questa che ho già appunto illustrato, è il fattore, diciamo, più relativo ai tempi e ai compensi, diciamo, dei professionisti che lavorano su questi prodotti qui. Ovviamente, diciamo, un sound designer o un fonico di mix che lavora per il cinema non ha la stessa parcella, diciamo, di un sound designer che lavora su un prodotto videoludico, anche AAA. Per cui, diciamo, lì, ahimè, questo è, insomma, è lì purtroppo. E poi c'è di fatto il comparto, come possiamo definirlo, più informatico, diciamo, meno creativo, o quantomeno, sì, ovviamente sempre creativo è, però è un altro tipo di creatività, che è il comparto quello appunto relativo alla programmazione, perché comunque l'audio di un videogioco comunque comporta anche il fatto che tu non hai un piano sonoro prestabilito. Nella maggior parte dei casi il piano sonoro lo decidi tu, spostando il tuo personaggio da un posto all'altro, lì cambi completamente il tuo piano sonoro, per cui, diciamo, quella parte lì, tutta quella gestione, diciamo, dei flussi sonori lì, non lo fai più con un software, una Digital Audio Station che useresti per missare o per fare sound design su un prodotto televisivo cinematografico, ma lo devi integrare con un altro software, che è un software professionale che viene usato per questo tipo di scopi qui, che gestisce più flussi in contemporanea e, per dire, può decretare che a un certo tipo di evento succede questo determinato suono, oppure una musica in sottofondo cambia ritmo e diventa più incalzante o più lenta a seconda di quello che succede sullo schermo. Per cui, diciamo che c'è questa, questo essere modulare, posso dire, insomma, del iterativo, suo, diciamo, anche, esatto, e che è, diciamo, alla base delle differenze che corrono fra i due prodotti. Di fatto, però, a livello creativo, diciamo, i flussi sono quelli, certo, sono uguali. Certo. Allora, vi faccio una domanda alla quale forse Carlo e Arturino hanno parzialmente già risposto, ma magari possono estendere, diciamo, questa cosa, e ci mettiamo dentro anche Davide, perché comunque la allargo un pochino la domanda. Nel mondo, allora, un videogioco, un telefilm e un film che dal punto di vista sonoro vi hanno veramente stregato, cioè, nel senso, la prima volta che proprio avete provato quella cosa e dicevo, oh, mazza, veramente qui siamo andati proprio troppo avanti. Partiamo da Arturino. Ma come in videogioco, probabilmente Monkey Island, quando c'è stata la musica che cambiava in base a quello che facevi, la situazione, e quello era, penso, quello... stata la prima volta che c'è stato quell'effetto wow. Poi tutto il resto che è venuto dopo è grandioso, ma non è come la prima volta. Un film, penso forse quello che mi ha impressionato di più sia stato 300. Forse grazie a tutte le scene visive, quindi l'audio misto al visuale mi ha impressionato molto. Come serie televisiva, probabilmente Lost ha segnato un cambiamento nel taglio cinematografico delle serie televisive, penso. L'audio è la prima volta che è entrata di padrone di una serie TV. Sì, anche perché secondo me, vabbè, poi dopo ci risponderà Carlo, però secondo me c'è stata una devastante differenza tra come si lavorava l'audio al cinema e come si lavorava l'audio ovviamente in TV, però poi magari ce lo dice dopo. Davide, prima tu. È anche vero che i mezzi impiegati erano certo, game changer rispetto agli standard dell'epoca. Beh, ma infatti Lost penso sia stata la prima serie ultramilionaria della storia della televisione, da quel punto di vista. Il primo episodio costò più di $1 million, quindi è una cosa assurda per l'epoca. Sì, il pilot costò un fottio di soldi, sì. E Davide? Ma allora, ci stavo riflettendo, voglio escludere tutte le nuove produzioni, le robe che avevano sostanzialmente strumenti e cose illimitate per realizzare le cose che si sentono bene, che hanno un bel sound, eccetera. Invece quello che mi ricordo, che mi ha lasciato proprio, come dire, che quando l'ho sentito, sebbene nella sua semplicità, visto oggi, con gli occhi di oggi, vabbè, Tomb Raider 1, che già anche il gioco era molto coinvolgente a livello tridimensionale, che era abbastanza una novità, diciamo, per i miei occhi. Sì, anche se è invecchiato malissimo, oggi è inguardabile, però insomma sì, è vero. Sì, allora oggi sì, è guardabile, ovviamente, ma all'epoca io... come ho già raccontato più volte, mentre giocavo, cioè, ondulavo e ballavo come se stessi cadendo in un buco, cioè proprio era una roba che, impressionante. In quel caso, cioè, in quel contesto, tutto quello che era la colonna sonora, gli effetti, il suono e tutto, ho sentito oggi è sempre molto semplice, ma di quello, in quel periodo, in quel momento, ho avuto proprio un effetto del tipo, che roba incredibile. Poi dopo, oggi è facile sentire delle robe 100.000 volte meglio di quella, e tu dici, come facevo a dire a quell'epoca che questa era una cosa strepitosa. Però ho questo ricordo, quando ho giocato a Tomb Raider 1, di essere rimasto proprio a bocca aperta per dei suoni che oggi sono magari un po' banali, però all'epoca mi è rimasto impresso. E lo stesso con i film. Oggi abbiamo suoni, strumenti e di tutti i generi, però che mi ha lasciato è che me l'ho solo anche riascoltato extra film, cioè mi ascoltavo le colonne sonore in macchina per dei mesi, a parte tutti i vari film orchestrati da John Williams. In questo caso Star Trek 1, il primo, The Motion Picture. Sì, anche lì, Viger, quello con l'espressione Viger sonora di tutto il Viger che si vede dentro, e poi dopo lo ascolti ed è tutto realizzato quasi con strumenti reali e pochi elettronici. In realtà mi aveva coinvolto molto sia la parte video, ma soprattutto la parte audio di questo film. Sì, vabbè, Star Trek The Motion Picture era molto anni 80, proprio come sound design, possiamo utilizzare questo termine. Sì, però sai, se stiamo parlando di qualcosa che mi è rimasto impresso... Sì, sì, no, ma è giusto, va bene, perfetto. Quello è quello che mi ha lasciato un segno dentro in qualche modo, poi dopo le cose sono cambiate e ho ricevuto anche altri segni nel tempo, perché comunque i livelli sono sempre migliorati, sempre di più. Oggi siamo talmente abituati quasi alla perfezione che non ci stupisce quasi più niente, anche negli effetti grafici, diciamo, tridimensionali o quello che volete. Ci stupiamo sempre più difficilmente, ecco. Come ci dirà anche Carlo, ormai gli strumenti che sta utilizzando e che utilizza tutti i giorni saranno gli strumenti che utilizzano anche quelli che fanno i filmoni megagalattici. Ormai il livello è di strumentazione, di engineering, è alla portata, diciamo. Magari ai tempi era più difficile che qua magari certi studi potessero avere gli strumenti che avevano ad Hollywood, eccetera. Beh, oggi magari invece è un po' più... comincia a diventare un po' più facile. Sì, per tutti, c'è una maggiore equiparazione tecnologica in generale, tu dici, da questo punto di vista. Sì. Non lo so, boh, sentiamo, poi penso che Carlo ha preso appunti nel frattempo. Comunque, anche io devo dire che l'effetto Muse di Monkey Island 2, devo dire che era interessato soprattutto da quando vai nella palude e la musica diventa sempre più tetra. Devo dire che quel sistema è stato geniale e secondo me ha funzionato tanto. Per quanto riguarda il film, non c'è un film in sé, cioè per quanto riguarda me, però è stata la prima volta che ho visto l'intro del THX Sound System, devo dire che sbragava tu, cioè sentiva proprio le sedie. L'intro del THX è ovvio, dai, anch'io, tutti questo credo, penso. Che, quello era proprio... Come anche quello del cinema Arcadia dove siamo andati. Sì. Come si chiama quello di adesso? L'Atmos. L'Atmos, esatto, che ti spara fuori il... tutte le cose di fare la scena, però devo dire che la scena di THX era veramente la prima volta che assistevi a una roba del genere. Adesso ormai l'abbiamo già capito, non è più una novità, vogliamo solo misurarlo. Sì, sì. Invece all'epoca ce lo siamo trovati così e siamo rimasti veramente a bocca aperta. All'epoca collezionavo tutte le intro con i vari, con lo robottino che faceva i vari lavori. Ma sai, anch'io sta cosa la facevo. No, dai, cioè. Sì, penso che fosse normale per l'epoca, cioè. Tu considera che quando io iniziavo a fare i primi montaggi, insomma, con Premiere 6, boh, non so, lo stesso per me, i primi montaggi o cercare di ricrearlo con Lightweb. No, io avevo i quick time delle varie sigle intro, no, del THX, ma anche di altri. Non mi ricordo dove l'avevo trovato, devo dire la verità, c'era un sito dove si scaricavano e ce ne mettevo davanti, così faceva figo. Comunque, Carlo, non so se ti sei preso appunti di tutto quello che abbiamo detto. Probabilmente lo scaricavi da Antani Soft. Può essere. Grande BBS. Carlito? Ehi. No, dico, sta a te, insomma. Ah, no, scusami, no, vi stavo ascoltando con estremo piacere. No, allora, la prima, diciamo, ecco, parto dai film. Sicuramente il film che mi ha esaltato proprio dal punto di vista sonoro, ed è stato anche un po', sì, anche perché ero ragazzino, cioè avevo 13 anni, quindi insomma lì cominci un po' a capire quello che vuoi fare da grande, è stato Jurassic Park. Quello è stato il primo film che mi ha veramente fatto... Sì, un altro spartiacque, sì. Sì, sì, dal punto di vista sonoro lì è stato fatto tanto, cose che adesso veramente se le vai a riascoltare sono robe assolutamente, non lo so, che sentiresti anche magari nei videogiochi, quelli più magari non così tanto blasonati, no, per il tempo, però è stata qualcosa di da spaccamascella proprio, fantastico. E per quanto riguarda invece serie TV, sicuramente ti direi Lost, anch'io, per quanto anche X-Files comunque a modo suo comunque ha rappresentato anche da quel punto di vista, insomma, come dire, un passaggio importante dal punto di vista sonoro. Anche lì comunque si andava a creare suggestioni, per lo più, perché poi di fatto le cose che succedevano, come dire, smaccatamente nella serie, per chi se la ricorda, non è che fossero così concrete, insomma, quindi era tutta una cosa molto più così, che si montava, un'atmosfera che si montava grazie all'audio e soprattutto grazie alla musica, perché c'era il grande Mark Snow al tempo, insomma, e che era fratello di Jon Snow, chiaramente. Già era fratello di Jon Snow, ovviamente. Beh, no, sai che secondo me qual è stato il vantaggio di X-Files? È stato il fatto che se tu vedevi la serie di per sé era fatta di puntate a volte anche mediocri, però sì, era sorretta da quei film per la TV che rappresentavano i pilot di stagione. Che sì, quanto poi X-Files era una serie girata in pellicola, insomma, cioè costava una sbranda di soldi. Sì, sì, sì. Era una però, roba, diciamo, però tra la puntata di inizio stagione, no, tra la puntata di inizio stagione che era molto super curata con l'audio figo, roba del genere, e le puntate normali, diciamo, di mezza stagione, c'era cioè un abisso pure tecnico, cioè da quel punto di vista, insomma, secondo me è per lo meno, me la ricordo così, oltre che qualitativo, perché a volte alcune puntate erano proprio, cioè, punti è tutto fatta la puntata. Certo, assolutamente, sì, sì. E poi, ecco, continuando, per quanto riguarda i videogame, io faccio, diciamo, purtroppo degli esempi, non me ne vogliano i miei colleghi di puntata, insomma, che ovviamente da cui io posso solo imparare dal punto di vista proprio, diciamo, di storico, questo. Storico, diciamo storico. Dai. Storia, assolutamente, un grandissimo rispetto. Però diciamo, i miei esempi, diciamo, sono molto più recenti, perché io sono più legato, diciamo, a un contesto del modo di approcciarsi al sound design, e anche purtroppo questo è un po' il, come la direbbe Marco Gualdi, che saluto, che non è stasera con noi, è un peccato, ci dispiace, e un po' una deformità, diciamo, audio, una deformità del lavorativa mia, che purtroppo nel momento in cui ascolto qualcosa un po' il mio orecchio la passa un po' ai raggi X per capire un po', vabbè, ovvio, certo, quello che si è tentato di fare, no? È il brutto poi quando capisci che quello che si è tentato di fare non è neanche tutta sta grande originalità. Però, ecco, diciamo, gli esempi più recenti che posso fare io, oltre al punto già citato Dead Space, ti potrei dire, che ne so, tutta la serie, quella nuova, ovviamente, di Battlefield. Lì comunque EA ha fatto un grande lavoro dal punto di vista del suono, come ma anche, che ne so, Assassin's Creed, diciamo, tutta le opere, tra virgolette, di Ubisoft, anche loro si dimostrano sempre molto attenti dal punto di vista sonoro, e per cui, insomma. E The Last of Us parte 2? Da parte mia non lo so, cioè ecco, qualcosa che mi ha veramente lasciato attonito, forse è la parola giusta, diciamo, ma anche un po' depresso, devo essere sincero. Oh, la Madonna, addirittura. No, sì, non ci avrei voluto giocare, sinceramente, a quel gioco, però l'ho fatto ed è stato un po' come, non lo so, guardi qualcosa o utilizzi qualcosa per l'amor di conoscenza, perché già sai che andrai a scontrarti contro qualcosa di spiacevole. È Hellblade: Senua's Sacrifice, che è un gioco bellissimo dal punto di vista dell'atmosfera. Ah, beh, sì, sì. Di tutto. Lì, ecco, è stato tentato un approccio al suono partendo proprio dal suono, che è una cosa assolutamente bellissima per quello che riguarda non so, il rispetto, diciamo, verso chi fa il mio mestiere. È stato fatto in modo molto artigianale, oserei dire, questo approccio. Però devo dire, come appunto dicevo prima, a volte le cose più semplici sono quelle più efficaci. Che funzionano, certo. Il suono binaurale che c'è su quel gioco è sicuramente uno degli esempi più fulgidi, diciamo, di quella che è la tecnologia che puoi applicare a un prodotto per renderlo molto figo, molto efficace, e poi anche alla creatività, che nello specifico è una creatività essenziale, perché è una creatività basata sostanzialmente più che sugli eventi sonori creati da effetti sonori, ma sono eventi sonori ricreati da voci. Se voi andate a guardare su YouTube un dietro le quinte di quel gioco, vi accorgerete come è stato creato, diciamo, tutto il suono all'interno della testa di Senua, che io volevo morire dopo un quarto d'ora di gioco, veramente me l'ho buttata dalla finestra, e al tempo abitavo al piano terra, quindi non mi sarei neanche fatto granché. Però, diciamo, quello è stato veramente una cosa terribile. Vabbè, io, diciamo, ho tra virgolette, insomma, una storia familiare un po' spiacevole, per cui diciamo, questo gioco mi ha messo di fronte un po', mi ha preso a schiaffi tanto, diciamo, da quel punto di vista, per cui in questo senso non avrei voluto giocarlo. Però devo dire che tecnicamente e creativamente è un gioco molto molto bello. Se non lo avete giocato e avete un po' lo stomaco forte, fra virgolette, non tanto per quello che andrete a vedere sul gioco, ma per questa sorta di mano demoniaca che vi tiene, capito, schiacciati sulla poltrona dal primo momento all'ultimo del gioco, se ve la sentite di fare questa cosa, fatelo, perché è sicuramente una roba molto importante, soprattutto da ascoltare. Beh, sì, l'audio fa il 65% del gioco alla fine, anche secondo me un pizzico di più, proprio perché è un elemento narrativo essenziale, fondamentale, proprio della scrittura del gioco. Tra l'altro mi sono appena accorto, caro Carlo, che su Discord il mio avatar è una foto mia e tua, così. Giusto? È vero, sì. Ci ho fatto casa adesso a questa cosa. Così. Il signore accanto a te, sono io. È stato ieri quel vecchio davanti. Allora, io faccio una domanda. Se posso. Prego, scusa. Dobbiamo anche ricordarci dei podcast, è un'altra forma d'arte. Io consiglierei a tutti quanti di ascoltare Passione Sound Design e anche un altro podcast che è 30 Minutes to the Moon, fatto dalla BBC World Service. Vi consiglio di ascoltarli tutti e due. Uno è di Carlo, sappiamo che è magnifico, ma l'opera della BBC è grandiosa per tutti i fan delle missioni lunari. L'audio, ok, è fatto dal grande Zimmerman, quindi sappiamo già che c'è una base, hanno tirato fuori l'artiglieria forte, come si suol dire. È veramente qualcosa, un piacere per le orecchie, che saranno una decina di episodi da un'ora, e sono sicuro che ognuno di noi perderà un weekend intero per ascoltarlo tutto in un fiato. Io penso che Davide se lo sta già scaricando. Tra l'altro, io mi ricordo quando ero ragazzino, non so se Davide ci ha mai messo mano, ma c'era un'enciclopedia, io l'ho ritrovata anche su eBay, però non c'era l'aggiunta. C'era un'enciclopedia sullo spazio che comprò mio padre, che in allegato all'enciclopedia c'erano 7-8 vinili che raccontavano la storia dello spazio. Una delle voci era Renzo Larbore, come si chiama quello che ha fatto Portobello? Vabbè, porca miseria, quello capito? Che è andato in galera per, sì, esatto, per sbaglio, esatto, per sbaglio, Tortora. Uno era voce, era Tortora, l'altro non ricordo, e raccontavano, e ovviamente facevano sentire anche suoni originali, suoni relativi, insomma, alle varie situazioni, varie registrazioni. E devo dire che per gli anni 80, io non so bene qual è stata la produzione di quella, però era veramente tanta roba, io ero innamorato di quella cosa, quanto in realtà, vabbè, poi questo dipende un po' da tutte le esperienze che ognuno di noi ha fatto, però sì, la fotografia, il video, la pellicola, l'immagine hanno un'importanza mnemonica fondamentale, ma secondo me l'audio è una cosa che va più nel profondo, e quindi in generale quando c'è una narrazione con l'audio c'è un qualcosa che può creare un legame animico molto più forte, no? con la cosa che stai vedendo, e infatti volevo parlare poi con te di una cosa, perché non so poi se è andata avanti, Carlo, però prima di questa cosa ricordami che voglio parlare di questa cosa che tu adesso non sai che cosa vorrò, ma dopo te lo dico. Invece volevo fare una domanda, una a Carlo, che è proprio strettamente tecnica, e una è generale. perché a Carlo vi faccio proprio la domanda che poi era un po' uscita fuori prima, cioè abbiamo detto quanto il mondo del videogioco dal punto di vista tecnico, tecnologico e artistico si è avvicinato a livello di sound design al cinema, però adesso diciamo anche quanto, e lo vediamo proprio effettivamente, il mondo delle serie TV sta quasi arrivando ad un linguaggio che praticamente è quasi sostitutivo di quello del cinema, oltre che molto meno televisivo, no, rispetto a prima. Cioè noi vediamo Mandaloriano in realtà so cortometraggi, cioè cortometraggi cinematografici a tutti gli effetti, proprio come concezione, scrittura, come tipo di immagine, di fotografia, di ripresa e via dicendo, e chiaramente probabilmente anche dal punto di vista sonoro. Quindi quanto il suono delle serie TV, quindi della televisione, si sta avvicinando a quello del cinema. E la domanda invece che voglio fare poi a livello più generale, che è una domanda che viene dalla puntata precedente Ludico Forum che abbiamo fatto, quando nella varie constatazioni che abbiamo fatto a un certo punto Alex ha detto, cioè ragazzi dobbiamo metterci comunque in testa che il Covid ha ucciso il cinema, cioè nel senso, cioè quello che non è riuscito a fare la televisione lo ha fatto il Covid, perché difficilmente nei prossimi anni o in tempi brevi si ritornerà al cinema, no? E quindi difficilmente le opere saranno pensate per andare al cinema, e qui poi entriamo anche in aspetti. Simone, se posso ti do un input diverso da... Sai bene che io vivo all'estero, io vivo in Belgio, sì. E qui i cinema si stanno reinventando. Come sai, i bambini possono muoversi liberamente, fare praticamente tutto quello che vogliono, almeno qui dalle mie parti. Quindi tutti i cinema stanno cambiando la loro programmazione. Sono diventate sale alle... bingo. No. Esatto, no, sono diventate sale per bambini, proiezione di film per bambini. E quindi con le scuole o i weekend ci sono tutta la programmazione di film o qualcosa che è adatto ai bambini, e i genitori vanno, depositano il bambino e poi lo riprendono. Lo depositano, è bellissimo. C'è un investimento, no? Beh, dobbiamo sempre considerare che poi ogni realtà è un po' a sé, no? Però comunque se noi vediamo il cinema come grande distribuzione, e dove le opere devono essere pensate per essere quindi sono concepite per andare in quelle sale, secondo me questa cosa cambierà, è cambiata già, cioè è inevitabilmente cambiata, perché comunque oggi in Italia i cinema sono chiusi e lo saranno per non si sa quanto tempo, e probabilmente in Italia, così come in altri posti, chiaramente tu dici comunque in Belgio hanno trovato questa pseudo soluzione che in Italia non è praticabile, perché comunque sì, i bambini ci hanno maggiore libertà, ma fondamentalmente i protocolli funzionano per tutti, e quindi comunque non sarebbe comunque fattibile neanche per i bambini in Italia, no? Però in Italia ho visto comunque in generale, comunque anche nel Regno Unito ci sono problemi abbastanza similari, no? Quindi io immagino il fatto che le opere televisive si avvicinano all'immagine e alla produzione del cinema, perché comunque le opere televisive sostituiranno il cinema, e in un certo qual modo alla fine poi questo discorso ci porterà anche alle tecnologie per usufruire questo tipo di cose, ma ne parliamo appunto dopo. Prima appunto volevo un attimo da Carlo sta cosa di quanto le serie TV oggi, tu che poi lavori proprio in ambito proprio specifico, magari perché prima lavoravi a Fox, oggi lavori a Disney, quindi insomma puoi vedere, no, quanto poi in realtà la serie TV oggi, quella coi controcoglioni, è similare o non similare alle opere cinematografiche. Ma sì, guarda, questa cosa sicuramente, al di là del Covid, sicuramente ecco, la pandemia è stata un veicolo molto importante, è stata comunque una motivazione grandissima per puntare, diciamo, tutto più sulla serialità che sul singolo prodotto che tu vai a vedere, anche perché adesso, giustamente come dicevi tu, non lo puoi andare più a vedere. Questo però, diciamo che un po' si diceva già da anni, insomma, non è una cosa che sta succedendo adesso c'è, è un diciamo un limite imposto, non è una scelta in sé per sé. Ovviamente No, certo che non è una scelta, però è una conseguenza enorme, no? Come nel caso di un film Marvel o un film d'animazione, quello che sia, e non vuoi perdere il denaro che hai investito, che a volte sono svariate centinaia di milioni di dollari, e a quel punto tu devi in qualche modo cercare di inventarti qualche cosa. E adesso, diciamo, viviamo in un mondo in cui le piattaforme streaming sono il nuovo, come dire, veicolo proprio di intrattenimento di per sé. Adesso io credo, cioè non lo so, non ho i dati per sostenere questa tesi, però io sono abbastanza certo che anche la pirateria in sé per sé sia, come dire, una cosa che ormai faccia dei numeri ridicoli, perché la facilità con cui adesso, e con la facilità anche economica con cui tu puoi avere accesso a un catalogo smisurato, che è un catalogo molto più smisurato di qualsiasi pacchetto di super mega film che tu vai a scaricarti in giro per internet, voglio dire, insomma, quello secondo me fa molto la differenza, per cui è solo una questione, insomma, di capire quanto il nostro tempo vale i nostri soldi, cioè se il nostro tempo vale il mettersi a scaricare ore e ore di roba e per poi vedersela, o magari neanche vedersela, piuttosto che pagare 9,90 euro e avere un Netflix, o ancora meno un Disney Plus o Amazon Prime Video, che oltretutto mette a disposizione tutta la serie di bonus legati alle spedizioni, a tutto il resto, se questo faccia o meno la differenza. Io credo che la faccia. E il cinema, diciamo, ecco, adesso sta vivendo un periodo brutto, spero anch'io, insomma, che questo momento, diciamo, finisca e ce lo ricorderemo come una brutta parentesi solamente. Però sì, per adesso, il problema sono le conseguenze, cioè nel senso, vabbè, il periodo passerà, è quello che si lascia dietro poi dopo, no? Che... sì, però ti ripeto, se ci pensi, questa cosa che comunque le serie TV avessero o stessero così silenziosamente rimpiazzando le opere cinematografiche, ma da quanti anni lo stiamo sì, questo è vero. Lo stesso linguaggio delle serie TV, da Lost, ha cambiato le carte in tavola ed è mutato fino a diventare appunto una serie, come dicevi giustamente tu, The Mandalorian, che forse è uno degli esempi più eclatanti, una serie di piccoli film che hanno, diciamo, l'importanza visiva e tecnologica, sia tanto dal punto di vista video quanto dal punto di vista audio, di un film al cinema. Certo. Sì, assolutamente sì, da quel punto di vista. Diciamo che diciamo che l'operazione era già in corso, la pandemia gli ha dato sì, la mano da questo punto di vista. Davide, secondo te il cinema è morto? Ritorneremo al cinema, secondo te? Sì, beh, ritornare al cinema, secondo me sì, dai, il cinema, adesso non so se Alex aveva detto che il cinema ha preso una dura botta che ne risentirà per sempre o altro, però mi sembra un po' esagerato. Secondo me non appena si potremmo ricominciare a fare le cose che facevamo, cominceremo a rifare tutte le cose che non siamo più riusciti a fare, che in qualche modo ci sembra che ci abbiano impedito di poter fare, e le andiamo a fare anche se magari non avevamo neanche, io non andavo molto al cinema, andavo due, tre volte all'anno, quattro volte all'anno, veramente poche volte, però non so perché adesso avrei voglia di andare al cinema, no? E quindi è probabile che, secondo me, non appena si potrà ritornare a circolare, tutti ritorneranno volentieri a fare tutte le cose che avevano anche magari sottovalutato nel periodo in cui potevano farlo e non l'hanno fatto. Adesso che non lo posso fare, lo vorrei fare. Bisogna vedere se nel frattempo la sala cinematografica è sopravvissuta economicamente. Certo, ovviamente ci sono dei problemi che a quelli vedremo cosa succederà, però sicuramente ritengo che comunque, sebbene la qualità sia quella che vuoi a casa, ammetti di avere l'apparecchio televisivo più bello che ci sia, l'impianto audio migliore che ci sia, l'esperienza che puoi avere in casa è comunque molto limitata rispetto a quella che puoi avere al cinema, e quella volta che esce il film, che sai che è fatto dall'autore che ti piace, piuttosto che un film di Star Trek, che cacchio ti posso dire, di cui sei molto appassionato, e lo vai a vedere al cinema, tranne quelli di J.J. Abrams, chiaramente, cioè quelli vanno levati. Quindi ritengo, poi adesso non so dirti sulle nuove generazioni, su quello avrei un po' più difficoltà a fare un ragionamento, perché per esempio i miei figli quasi non sono mai andati al cinema. E anche questo è sufficiente, capito? E anche questo è appunto, ti dico, cioè nel senso, comunque diciamo che c'era una trasformazione in atto, come diceva giustamente Carlo, e probabilmente l'era Covid l'ha comunque accelerato, e probabilmente se torneranno ad esistere delle sale saranno forse più un qualcosa di ricercato da quel punto di vista, perché come dici te, comunque i ragazzi non sono neanche più abituati, forse per certi versi, o perlomeno da noi, no? È un po' così. E Arturino, secondo te invece il cinema sopravviverà a questa? A parte che secondo me il cinema è morto da almeno una ventina d'anni, ma questo è un discorso che non c'entra con le sale cinematografiche. Però dico, secondo te sopravviverà a questa botta? Ma io separerei le due cose, il cinema come produzione e il cinema come fruizione. Io penso che il cinema come produzione esisterà sempre e non cambierà molto. Quello come fruizione cambierà come lo utilizziamo. Io vedo due modi di andare al cinema. Uno è per andare con gli amici, per divertirsi, e il film non è molto importante, ma... ma per il resto non cambierà molto. Beh, dobbiamo però considerare che cambia il modo in cui viene prodotta l'opera, cioè nel senso, Carlo, suppongo, no? Nel senso, se l'opera è diretta a un certo tipo di tecnologia piuttosto che un'altra, chiaramente, ma cambia il modo in cui viene prodotta, o perlomeno diciamo finalizzata nella parte di post produzione. Sì, quello tantissimo, ovviamente, assolutamente sì. Lì ci sono dei flussi di lavoro che sono differenti, ovviamente. Ci sono delle maestranze diverse al lavoro, ci sono degli staff diversi, anche l'approccio al lavoro, anche proprio le stesse tempistiche sono più, mi viene da dire, quasi giornalistiche, insomma, per quanto riguarda le serie TV. Che sappiamo. Beh, certo. Adesso escono, capito? Adesso neanche prima, capito, come dire, il vantaggio fra virgolette di avere una di queste piattaforme in streaming era il fatto che tu prendevi, c'avevi tutta la serie. Adesso è col cacchio, perché cioè non è proprio possibile, non è più fattibile riuscire a consegnarti soprattutto in alcuni casi specifici l'intera serie, perché molto spesso quella serie magari la stanno finendo ancora di produrre, la stanno finendo ancora di post produrre, per cui magari quando tu ti vedi i primi due episodi stanno ancora magari finendo gli ultimi quattro, per dire, per cui è ovvio che si va molto a braccio da quel punto di vista, però sì, le lavorazioni sono diverse. Ripeto, diciamo, l'approccio al lavoro a livello dal punto di vista artistico rimane comunque lo stesso. Molto spesso anche proprio dal punto di vista anche proprio della masterizzazione audio, comunque i flussi sono abbastanza similari, perché comunque adesso insomma da anni, insomma, le serie escono fuori con un audio cinematografico a tutti gli effetti. Esatto. per poi andare a scalare, diciamo, dinamicamente in base a quello che è l'impianto in cui suoneranno, per cui però ovviamente si parte dal top di gamma, che nello specifico può essere un Dolby Atmos, o insomma si parte da quella base lì, per poi andare a scalare in basso. Dolby Atmos in particolare un formato estremamente scalabile, per cui da lì, insomma, lo puoi sentire tanto appunto sull'impianto, che ne so, 9.1.4, quanto sull'iPhone, per dire, o sul telefonino mentre stai sulla metro, capito? Sì, questo perché a volte succede che un telefilm te lo vedi in TV e lo senti con l'audio stereo, però quando esce il Blu-ray scopri che c'è dentro il Dolby Atmos piuttosto che 5 più 1, quindi si parte sempre dall'alto e dici: ma cos'è questa roba che ci sta dentro? No, comunque al di là del piccolo valore aggiunto in più per farti comprare il Blu-ray, perché oggi veramente comprare il Blu-ray non ha più scopo praticamente, però se c'è almeno un audio migliore prima di andare al diciamo alla parte finale, dove poi andremo a parlare, insomma, diciamo più strettamente magari di un argomento che piace sicuramente ai nostri ascoltatori. Mi volevo focalizzare proprio su questa questione, no? Il fatto che comunque, come abbiamo detto da anni, le serie TV, ma anche i videogiochi, comunque hanno assunto, diciamo, un aspetto produttivo cinematografico, quindi una qualità anche dal punto di vista sonoro sicuramente di maggiore livello, o di livello paragonabile appunto a quello del cinema, e fuori dal contesto del cinema, proprio perché appunto in questo periodo particolare, nello specifico appunto, non possiamo avere accesso alle sale cinematografiche, diciamo, ci viene incontro tutta una sorta di tecnologia per l'uso domestico che ha dei pregi e dei difetti. Il pregio c'è, per esempio, c'è tutta quella tecnologia cinese che ha innalzato un po' la qualità media da un certo punto di vista e l'ha resa accessibile a un certo tipo di costi, e allo stesso tempo, contemporaneamente, proprio perché ha abbassato i prezzi, ha abbassato la qualità massima, cioè nel senso, comunque, diciamo, ha alzato la qualità media, perché comunque persone come me magari si possono comprare una soundbar magari a 200 euro piuttosto che a 700. Faccio un esempio, adesso io sto a fare un esempio proprio X, però l'hanno abbassato magari per quello che comunque usufruisce l'audio in una certa qualità, in una certa quantità, magari spendendoci maggiormente dei soldi, e quindi poi alla fine, comunque, cioè, come si dice, nell'era del digitale la democratizzazione è sempre un bene e allo stesso tempo è anche un male, no? Quindi ecco, parliamo anche un po' di questa cosa, perché io mi sono trovato a parlare con Carlo recentemente del fatto che mi sono comprato un proiettore della Xiaomi, non quello laser, mi piacerebbe molto comprarlo, che costa 1800 euro, però lo stesso proiettore della Epson continua a dare il messaggio in radio in modo che qualcuno possa, esatto, ricevere questa, sì, certo, perché io faccio l'elemosina, certo, no, comunque il proiettore della Xiaomi, diciamo laser, prendiamo quello lì, che costa 1800 euro, lo stesso modello della Epson costa 4000 euro, no? Quindi diciamo Xiaomi ti fa entrare dentro casa una tecnologia che altrimenti molti di noi non potrebbero accedere. Chiaramente ci sono dei compromessi che però la metà delle persone, secondo me, forse si rendono conto fino a un certo punto. Carlo? Cioè, i compromessi ci sono, e purtroppo quello è, come dici giustamente tu, la democratizzazione ha portato cose buone, ha portato cose brutte. Ma guarda, io devo essere sincero, non lo so, io non sono sempre stato un grande sostenitore dell'impianto casalingo, l'impianto home theater casalingo. Io diciamo che ci ho investito in tempi veramente non sospetti, da quando ero ancora probabilmente in età da non potermi permettere neanche, diciamo, di comprarlo con i miei soldi specifici, però fu un regalo di Natale, fu un regalo di Natale di veramente costosissimo che mi fece mia mamma al tempo, quando avevo credo 15 anni, avevo cominciato l'istituto che è il Cine TV che ho frequentato io per diventare fonico, diciamo, e per cui diciamo che lì mi si era aperto, diciamo, il mondo dell'audio e tutto il resto, quindi volevo in qualche modo che questo mondo potesse entrare in qualche modo nella mia vita e lo potesse fare non tanto, diciamo, ai tempi scanditi dal cinema, quanto invece ai tempi che decidevo io. Per cui l'impianto home theater sarebbe stata il compromesso migliore, ed è stato sicuramente un balzo in avanti dal punto di vista della concezione proprio dell'audio dei film, cosa che magari fino a quel momento nessuno avrebbe mai pensato di aver bisogno. Però effettivamente, quando tu ascolti un film alla televisione, quando lo ascolti su un impianto 5.1, tutto bello, ben, tra virgolette, ben calibrato e tutto il resto, ti accorgi che effettivamente il risultato è ben diverso, insomma. E diciamo, ecco, l'unica differenza è che al tempo, quando io ho fatto questo acquisto, c'erano pochissime marche che in qualche modo amministravano questo tipo di scenario. Adesso ce ne sono innumerevoli, e molto spesso basta aprire un po' un Amazon della situazione per rendersi conto di quanta mondezza ci si vede. Quello purtroppo, se, senza arrivare, non ho detto neanche, che ne so, Banggood o AliExpress, non so come cacchio si chiamano gli altri distributori, che lì veramente non mondezza, cioè lì proprio non lo so veramente, ragazzi. Eppure però nel Mare Magnum qualche cosa c'è, cioè nel senso, vende tutte queste cose con i LED, con le cose che mi fanno sempre molto ridere, queste robe che come sono... io e Davide ci andavamo matti per queste cose, quindi non ci insultare. No, sì. Vabbè, ma per carità, ma se tu vedi, però le vostre robe poi finisce sempre nella pattumiera alla fine, però esatto. Guarda, tu, vabbè, il mio studio te l'ho fatto vedere qui, diciamo, quando abbiamo fatto la videochiamata, capirai che anche io sono un fanatico dei LED, per carità, però diciamo che nel momento in cui tu vedi una soundbar con i LED che cambiano colore, beh, certo, quando certo. Si sente la musica, lì capisci che forse quella non è proprio, diciamo, un ambiente proprio prosumer o diciamo professionale, insomma lì sei andato un po', forse un po' oltre, diciamo. Beh, vabbè, lì perché è pensato anche per un altro mercato, alla fine, perché è pensato per i cinesi, no, o per quelle cose magari per i bengalesi, insomma, che gli piacciono queste cose così giovane, esatto. Però no, vabbè, diciamo, rimanendo invece nell'ambito anche del salutiamo il bengalese intanto, giusto. Rimanendo nell'ambito, diciamo, dei prodotti quelli un pochino più, diciamo, del mercato, insomma, senza andare a scomodare, esatto, sì, senza andare a scomodare, capito, i nostri amici della Cina che salutiamo. E lì anche comunque c'è una dispersione pressoché totale di quello che tu pensi di aver comprato. Il problema, ecco, diciamo, ecco, se adesso per esempio vanno tantissimo di moda le soundbar, come giustamente tu avevi fatto notare, insomma, le soundbar adesso sono diventate il nuovo business model per chi vuole qualcosa, diciamo, vuole sentire un audio di un certo livello. Questo perché caricato, diciamo, un audio caricato. L'audio caricato. La soundbar è un compromesso manco da poco, ragazzi, cioè io penso, non so chi ha inventato la soundbar, però è un cacchio di genio, perché la soundbar ti risolve il problema innanzitutto di non avere cavi per casa, di non avere mille casse per casa. Però che cosa ha fatto sto signore che ha inventato la soundbar? Ha inventato praticamente un fronte stereo piuttosto ampio, che poi secondo lui avrebbe in qualche modo così trasformato in un suono spaziale, così in qualche modo cercando di inserire, diciamo, dei diffusori sopra la soundbar, quindi non avendoli solamente frontali, ma avendoli, che ne so, sopra oppure lateralmente, eccetera eccetera. La soundbar, diciamo, ecco, per chi magari pensa di avere magari un impianto, diciamo, di alta fascia avendo una soundbar, purtroppo questa cosa, ahimè, sbaglia. Mi dispiace, diciamo, svegliarvi da questo bel sogno, però purtroppo la soundbar ha un problema proprio strutturale di per sé, perché la soundbar non riesce proprio fisicamente, per la sua proprio conformazione fisica, a riprodurre determinate frequenze, che sono le frequenze, diciamo, medio-basse del suono. Quindi tu hai semplicemente una sorta di ammucchiamento di medio-alte frequenze, e poi hai delle frequenze bassissime che ti vengono fuori dal subwoofer, che generalmente, e questa è una gran figata, devo ammettere, un subwoofer che generalmente è un subwoofer senza fili, e quindi già comunque questa cosa la rende interessante di suo come cosa. Però purtroppo, diciamo che ahimè, non può essere, diciamo, assimilata a un hardware di audio di alta qualità, non lo è. Diciamo che sicuramente può essere sfiziosa per andare a sentire determinati prodotti, ma se voi avete, che ne so, una cuffia o avete un buon impianto stereo a casa e ascoltate musica, e poi quella stessa musica la sentite attraverso la soundbar, capite proprio che c'è qualche cosa che non torna, e quello che non torna è proprio quello che ho detto prima. Vabbè, però questo è il significato del compromesso, no? Cioè, nel senso, comunque... questo è il significato del compromesso, però in quel senso è una mancanza. A quel punto sarebbe più corretto, tra virgolette corretto, sempre parlando di correttezza della risposta in frequenza di quello che tu vai a sentire, avere un impianto 5.1 anche di fascia, diciamo, non eccessivamente alta, anche perché poi, ahimè, io oggi come oggi, diciamo, fido io anche a trovare comunque degli impianti di fascia alta dal punto di vista del 5.1 o tantomeno dell'Atmos. Quelle cose lì uno se le deve un po' creare ad hoc di suo, però lì ovviamente si parte dal fatto che tu già in qualche modo conosci quello che tu devi andare, sì, a meno che non vai in negozi specifici proprio, cioè quelli che ancora qualcuno resiste, che neanche ci sono quasi più, esatto. Capisci? Altro. Anche lì non ce ne so quasi più, cioè un negozio specifico potrebbe essere, che ne so, Cherubini, questi posti qui dove ci si andava, capito, quando si era giovani, che magari andavi lì per ascoltare giovani. Mi fai sentire questo paio di casse con questo amplificatore, ma soprattutto ci lavorava dentro uno con la passione dell'altra che sapeva di che cosa parlava, a differenza di un media world, quando tu vai lì e dici: senti, ma questo è cioè sa a manetta quello che è la scheda, ma poi se fai la domanda ovviamente non lo sa, ma non è manco colpa sua, cioè non è che me la prendo con lui, insomma. Però assolutamente. Diciamo anche, e qui faccio entrare in causa Arturino e poi anche Davide, giustamente, e appunto, diciamo, torniamo al discorso un po' del compromesso. Io comprendo al 100% il discorso di Carlo, soprattutto perché viene chiaramente da una persona che, come dice lui, c'ha un'esigenza anche d'ascolto, no? Che è diversa da tantissimi, cioè nel senso, dice, però vedi che poi dopo voi non apprezzate determinate cose, però in realtà secondo me c'è molta gente che non le apprezzerebbe comunque, cioè che magari non c'ha neanche la sensibilità, no, per poter capire determinate cose. E in più c'è anche, e porto la mia esperienza, io nel 2004 comprai un televisore al plasma, lo pagai 7.000 euro. C'è una casa di 130 metri quadri, mi sono venuti i tizi, mi hanno montato il Dolby 5+1 e tutto quanto, no? E comunque allora era difficile comprare la roba di merda, perché c'era la roba che usciva, era roba che comunque più o meno era roba di qualità, insomma, più o meno, no? Poi chiaramente più scendevi di prezzo e più la qualità magari non era la stessa cosa. Oggi invece per compromesso, per esigenze economiche, perché comunque non tutti abbiamo gli spazi o non abbiamo i tizi che vengono dentro casa a montarci, diciamo che subentrano appunto questi produttori cinesi, che al di là di Banggood, io ritorno su Xiaomi o perlomeno case affini, che comunque ti presentano dei prodotti che innalzano, diciamo, la qualità media rispetto alla cinesiria, però chiaramente lo abbassano secondo le esigenze di Carlo. Però insomma, diciamo, alla fine sono una soluzione, possono essere una soluzione. No, non possono. Non devono. Lo sono, perché tante persone lo sono, che non sanno, che non si possono rendere conto, che non gli interessa nemmeno. No, assolutamente. Cioè, io se vedo, se faccio una panoramica solo della mia famiglia, dove mia moglie vede i video su un computer da 14 pollici di YouTube, che neanche lo apre full screen, ma lo tiene aperto con la finestrella, con tutto il testo in giro, ascoltate con due auricolari da 8 euro, e lei vive tranquilla così, senza nessun problema, non ha nessuna esigenza. Mia figlia, ci manca poco che li vede sul telefonino, mentre intanto sta chattando e sta parlando con qualcun altro. Sì, questa pure un altro. Mio figlio gioca e se vede qualche video lo vede su YouTube, sempre con gli auricolari, per cui non c'è proprio neanche minimamente la cultura. Non vanno mai al cinema, non sanno neanche che si può sentire meglio quasi la roba, per fare un paradosso. Perché Davide, ricordate sempre che a me 23 euro dicono: mazza, suona che è una bomba questa, rispetto ai miei auricolari da 3 euro. Certo. Beh, tu considera sempre, Carlo, che Davide, a dover instradare al bello, al bel suono e al bel video i tuoi familiari. Beh, no, però scusa, fermi, buoni tutti. Mi danno del vecchio. No, non è che ti danno, non è che ti danno le illusioni come stanno. Non è che ti danno del vecchio, il problema è semplicemente che, come sempre, e questa è una legge di natura che durerà nei millenni, probabilmente, il calzolaro va in giro, i figli del calzolaro vanno in giro con le scarpe bucate, cioè è così. È vero. È così, c'è niente da fare, insomma. Arturino, invece, qual è la tua opinione su questo tema? Soundbar sono una cosa orribile. Eppure Sony perché ne produce decenti, cioè pure della Bose ci stanno, insomma, pure marche che comunque ci sono di tutte le marche, però il concetto è che tu metti due speaker, una puntata verso l'altro, una verso di te, e queste due fanno interferenza una con l'altra. Quindi c'è già un primo problema tecnico. Fanno a cazzotti. Secondo problema tecnico da un audiofilo, che io non sono, che tu ascolti di più il suono riflesso che quello diretto, quindi per un audiofilo come Carlo è una cosa orribile da ascoltare, però funziona per un orecchio inesperto, o il, come si chiama qui da queste parti, Monsieur Tout le Monde, è la manna nel cielo. Io vedo tanta gente che è felicissima, il mio regalo di Natale, la soundbar. Magari un buon paio di cuffie connesse a un buon sistema, il risultato sarebbe molto lo migliore. So, però le cuffie, ragazzi, cioè, sono isolanti, cioè non lo vedi più con tua moglie il film, capito? Cioè, nel senso, io comunque, noi da quando ci siamo comprati il videoproiettore, che è un videoproiettore di fascia bassa, no? In proporzione a altre soluzioni, comunque è un prodotto che cioè di origine costava 6,99, io l'ho pagato 3,57 perché a forza di cercare le offerte, fino a che non ne sei trovata la super offerta, cioè si abbassava sempre di più sto videoproiettore, fino a che proprio ho detto, mi sa che più basso di così non c'è, ma l'ho preso, e c'ha dei bellissimi colori, quindi già il fatto che è un DLP, non è un LED, no? Quindi alla fine c'è il bianco che è bianco, il rosso che è rosso e il verde che è verde, cioè che per tanti... Il nero color muro invece? Il nero è, cioè, è il grosso problema, però lì veramente ci vogliono proiettori, cioè nel senso già da un certo diminuito del costo. Però io ti dico, è chiaro che è un compromesso, però a me comunque quel feeling, cioè di sta comunque al cinema, un po' al cinemino, al cinema del prete, me lo dà, ed è bello vederlo comunque sul telone, capito, che tu bello riflettente con magari un 1.5 di guadagno di luce, insomma, certo. Cioè, alla fine la soddisfazione te la dà. Il problema è anche sull'audio, secondo me non è... E chiaramente la perfezione è per quelli che richiedono la perfezione, per gli altri c'è il piacere di sentire un qualcosa che fa un po' più rumore delle casse del televisore, cioè nel senso, alla fine ci sta, io mi metto tra questi, cioè nonostante che lavoro, ho detto una bestemmia, cioè lavoro con i podcast, quindi con l'audio, con l'editing, da oramai 10 anni, pur ovviamente non facendo cose a caso, chiaramente, perché non è che mi ritengo comunque esperto di sta cosa, però devo dire che alla fine quando io sento i podcast che facciamo noi con una cassa che pompa un po' di più, anche se magari arriva Carlo e mi dice no, perché io me lo, cioè sarebbe giusto che fosse così, Carlo dice ma che è sta schifezza, a me mi sembra bellissimo. Certo. Quindi non lo so, insomma, Arturino, tu come stai messo con le soundbar dentro casa? No, niente soundbar, in realtà ho un televisore molto caro della Sony che resta sempre spento perché abbiamo una bambina piccola, quindi per non influenzarla rimane spento. Ok, un OLED? No, è un LED da 65 pollici. Oh, vabbè, vabbè. Che poi è anche un morsino. Ah, sì. Un mostro. No, prima avevo un plasma da 50 pollici della Sony che avevo pagato pochissimo, ma il costo ufficiale erano 12.000 euro, uno schermo professionale, quello che vengono usati per le pubblicità, una cosa bellissima, una resa dei colori che ancora oggi dopo 10 anni è stupenda, o più di 10 anni, cioè quasi 20 anni, è stupendo. Però la cosa importante è che adesso va molto il marketing e le licenze, quindi anche Dolby Atmos è tutto marketing. Tutti quanti parlano delle specifiche, che è bellissimo, ed è vero, ma dobbiamo fare una differenza tra il Dolby Atmos del cinema, dove ci sono fino a 64 casse e 128 sorgenti oggetti sonori è quello di casa. Quello di casa in realtà ci sono solo 10 oggetti sonori. Certo. Ed è basato sul tuo impianto stereo, perché non esiste un codec Dolby Atmos. Per casa si utilizza il Dolby Digital Plus o il Dolby True HD, se non mi sbaglio, con le estensioni che manda un subset di dati, in metadati, che descrivono più o meno la posizione spaziale di questi oggetti, che sono un raggruppamento degli oggetti originali. Nel campo videogiochi gli oggetti aumentano a 32, però non è mai il vero Dolby Atmos che è stato creato per il cinema. C'è anche una ragione perché non è un inferiore qualitativamente, perché a casa non c'hai tutta quella banda necessaria per trasmettere i dati. Sì. Come dovrebbero essere. Ma io però sta cosa delle, quando, ecco, allora entriamo poi nel tema finale, così almeno ci andiamo insomma un po' sul punto, e magari sentiamo pure magari Davide, che forse è meno addentro, però magari poi c'ha una concezione, c'ha delle sue idee anche su questo, no? Però, cioè, io questo, quando ogni volta sentivo che ne so, che quel codec era in esclusiva uso da, è chiaro che, cioè, è mercato, no? Poi voglio dire, alla fine, perché tante volte è capitato, insomma, senti ufficialmente esclusiva le cose, no? Oppure il gioco che era in Dolby Surround, io mi ricordo i primi giochi che uscivano in Dolby Surround, no? Cioè, poi sì, era figo, che la scritta, no? Dolby Surround era quasi grossa quanto il titolo del gioco. Del gioco, esatto, infatti, che poi tra l'altro, eppure quando partiva il gioco c'era l'intro del Dolby Surround inventata per l'occasione, no? Ma cioè, ma chi, cioè, alla fine su 80, su 100 giocatori, quanta gente c'aveva il Dolby Surround per sentire, no? Però vabbè, faceva figo, comunque fa figo, così come probabilmente fa figo anche oggi, no? Il fatto che comunque fare delle dichiarazioni, pagare delle licenze, avere comunque l'esclusiva per poter dire che questa cosa la utilizzo io. Al di là del fatto della guerra ovviamente tra Sony e Microsoft relativamente alle console, ecco, cerchiamo di capire un attimino, perché alla fine insomma si parla del suono del next generation, insomma della nuova generazione appunto dell'intrattenimento, che è relativa ai videogiochi, ma può essere anche relativa ai Blu-ray, a quello che cazzo ci metti dentro, insomma, fuori fondamentalmente. Ecco, insomma, Carlo penso che ci abbia l'Xbox, giusto? La nuova? Sì, sì. Sì, è in attesa di arrivare la Sony, che ancora non è arrivata, perché giustamente ci sono i bagarini, che poi è una cosa sulla quale bisognerà parlare prima o poi, perché, cioè, anzi possiamo, magari in chiusura ne parliamo proprio al volo. Ecco, insomma, chi vuole parlare un po', perché so che per esempio Arturino conosce un po' di più il discorso di Sony, come nasce questo famoso chip dell'audio 3D della PlayStation 5, così cerchiamo un attimo di capire un po' come funziona, e Carlo magari si è un po' studiato un po' di più la questione. Beh, Microsoft. Eventualmente inizio io e poi completerà Carlo, che è un po' più dentro nell'audio. Allora, bisogna fare un piccolo passo indietro. Tutto questo audio spaziale nasce da una ricerca australiana che poi fu comprata da Dolby e trasformata nel Dolby Atmos. Che cosa presenta questa ricerca? È il suono, come lo recepiamo noi esseri umani, in realtà viene recepito da due sensori. Noi abbiamo due orecchie e recepiamo tutto da questi due sensori. E quindi l'amplitudine, la frequenza che viene ricevuta da un orecchio è leggermente diversa da quella che riceve lo stesso suono dall'altro orecchio. Perché? Perché il suono attraversa anche la nostra testa. Qui hanno creato un modello, e in base a questo modello si riesce a muovere questi oggetti tramite un algoritmo complesso attorno a noi, questi oggetti sonori. Questa è la base di qualsiasi sistema di audio spaziale, quindi sia il Dolby Atmos che il Tempest 3D Audio o il 360 Reality Audio di Sony. In realtà il principio è esattamente lo stesso. Quello che cambia è questo, il famoso algoritmo, che ognuno ha la propria salsa. La parte Dolby Atmos l'ho già spiegata leggermente, rapidamente, ma penso che Carlo completerà i dati. Per quanto riguarda quella Sony, utilizza un formato standard, quindi un open standard che è basato tutto sull'MPEG H, che viene già utilizzato nelle trasmissioni digitali, quindi tipo la TSC in America e anche in parte d'Europa con la DVB-T2, che include oltre l'MPEG Transfer Stream il video, quello che siamo abituati, l'H265, e include anche una parte che è dedicata all'audio 3D. Le caratteristiche dell'audio 3D sono esattamente le stesse del Dolby Atmos, ci sono 128 oggetti e possono essere emessi da 64 sorgenti sonore, quindi in teoria il principio è lo stesso. Il vantaggio del sistema Sony, a parte essere un sistema open, quindi che tutti possono implementare un iPhone, standard iPhone, è che il decoding viene fatto dal player. Non è l'audio che viene trasmesso direttamente, già incodato, quindi quando ricevi per esempio un Dolby Atmos è già tutto encodato, non c'è niente da fare, il player finale, le casse lo sono, è finito. Nel caso del Sony vengono trasmessi i suoni, sono tutti mixati in modalità particolare, però è un dato grezzo, quindi se te lo faccio un esempio come con una macchina fotografica, prendi la tua foto a 40 megapixel, il Dolby Atmos lo puoi immaginare come una bellissima JPEG, mi correggo un attimo, parlo del Dolby Atmos casalingo, non da quello da cinema, lì siamo ad altri livelli, mentre il sistema Sony manda il raw data e poi è il player che lo cambia e lo modifica all'ultimo minuto. Questo modifica l'ultimo minuto, ti permette di fare delle cose molto particolari. Per esempio nel caso della PlayStation 5 ci sono 5 livelli differenti di preset per come è fatta la tua testa e il tuo padiglione auricolare. Quindi ognuno può scegliere il livello più adatto per avere la sua interpretazione tridimensionale, spaziale, migliore per se stessi. Nel caso di alcune cuffie particolari della Sony c'è un'applicazione che può scannerizzare, prendere una foto del tuo padiglione auricolare e creare un fingerprint adatto alle tue orecchie. Quindi l'audio viene generato appositamente per te stesso. Attualmente la PlayStation 5 ancora non lo fa, dovrebbe essere una fase successiva, ma io l'ho già testato con le mie cuffie che vengono guidate tramite il mio iPhone e lì l'audio è impressionante, ti senti che ti attraversa, ti passa da tutto, e tutto questo in base usando solo delle cuffie che sono state create apposta per fare questa operazione. Quindi questo è più o meno il concetto, come funzionano le due cose. Dal punto di vista casalingo io penso che il sistema Sony ha un vantaggio, visto la potenza della PlayStation, quindi può cambiare, mentre il Dolby Atmos è uno standard che esiste da già tanto tempo, non può cambiare così facilmente. Quindi può implementare nuove funzioni. Però siamo sempre un po' lì, cioè nel senso, comunque per recepire l'estensione massima della qualità di questo sistema, comunque devi avere le cuffie fondamentalmente. No, non è sempre detto le cuffie. Allora, la PlayStation 5 adesso usa solo le cuffie, più la utilizzerà la tua soundbar o il sistema 5+1, 7+1 o quello che hai a casa, quello okay. Stereo. Perché sì, potendo fare i profili, puoi fare il profilo anche del tuo sistema. No, perché noi poi alla fine tra le domande che abbiamo ricevuto era proprio questa, no? Deve essere certificato. No, dicevo, questo è un grande vantaggio. Poi chi vincerà è un'altra storia, vincerà ha importanza, non ha importanza. No, ma non è la questione alla fine i due sistemi saranno supportati entrambi. Esatto. Chi se ne frega. No, non ci interessa chi vince e soprattutto cosa è meglio o cosa è peggio. Adesso poi facciamo se interviene Carlo e dice ovviamente la sua parte. E, chiaramente, cioè nel senso, alla fine quello che interessa è che comunque ci sia un'esperienza sia buona. Esatto, l'esperienza sia buona, ci sia anche un'evoluzione, che poi è la cosa un po' più interessante, insomma, detto tra noi, insomma. Quindi pure soundbar. Perché poi alla fine era No, i soundbar, il 5 più 1, il 7 più 1 e via dicendo. Perché era la domanda che ci eravamo fatti proprio l'altra volta e qualche ascoltatore ce l'aveva proprio chiesto, cioè nel senso, ma comunque il sistema Sony sarà poi compatibile con degli, comunque con una configurazione magari un 5 più 1 che io già ho a casa? E questo insomma... Sì, sì, quello lo sarà. Ma una cosa importante è che questo... analisi della testa del sistema Dolby utilizza il suo formato standard e standard per tutto il mondo. Il sistema utilizzato da Sony è, ci sono 5 gradienti diversi e ognuno ha la sua sensibilità. C'è qualcuno che ascolta lo stesso suono con Dolby Atmos, lo trova gradevole perché il profilo è adatto a se stesso. Se utilizza un profilo Sony magari non va bene, è esattamente la stessa esperienza che hai quando guardi un televisore della Philips e un televisore della Sony. L'immagine che vedi un televisore Philips è molto più fredda di quella da Sony. Vabbè, è sì, un'immagine calda e quella è tutto questione di feeling. Questo è una storia anche vecchia, quando si parlava nei vari forum di videomaking, quando c'erano le Panasonic e comunque c'erano quel feeling più pastoso, più cinematografico rispetto non ad altre. Non è solo un questione feeling, ti dico che ci sono 120 pagine di documentazione per questa cosa. No, ma feeling, cioè se c'è un feeling vuol dire che c'è comunque non solo una percezione, ma c'è effettivamente, producevano quel tipo di immagine che era comunque diversa da comunque dall'immagine che produceva magari un'altra camera, perché poi si facevano determinate scelte. Poi è importante sta cosa, perché considerando che io e Carlo c'è mica Poscioni, è importante, insomma, giusto Carlo? Certo. Vai tu. Io volevo solo dire una cosa, scusa, comunque, riguardo quello che si è detto tutto adesso con l'ascolto in cuffia della simulazione del 3D, che oggi vabbè ha raggiunto livelli particolari per tanti motivi, però io ricordo comunque di aver ascoltato e posseduto anche, adesso non li ho più, addirittura dei vinili che venivano venduti per effetti sonori tridimensionali, e che tu li ascoltavi e sentivi l'asciugacapelli che ti asciugava i capelli, sentivi chi era dietro, davanti, certo, sfruttava certo tutti gli sfasamenti. Era una roba fatta in studio manualmente, sì. Da delle persone che hanno fatto delle ricerche. Non c'erano tutti i dispositivi di oggi, ma è roba già che se ne parlava un po' come il 3D nel cinema, no? Che noi lo vediamo adesso al 3D, ma c'era già negli anni 60 lo stesso 3D praticamente, quasi. No, non c'era solo negli anni 60. Polarizzato sarà uscito negli anni 80, dai. Il 3D viene sperimentato nel cinema a partire dagli anni 20, quindi Gli anni 20, scusa, mi correggi, però quello era bianco, era bianco e nero. Dice, sì, con gli occhialini rossi e blu. Qualsiasi sia però stato, comunque nel cinema sta cosa c'è sempre stata. Sì, vabbè, però comunque che è molto simile a quello che c'è adesso, voglio dire, però per molte persone il 3D è nato nel 2000, nel 2005, nel 2007. Sì, vabbè, quello che vuol dire chi nasce nel 2020, le cose sono nate nel 2020. Come addirittura un vinile, io che insomma, in qualche modo tu con le cuffie, ovviamente, ascoltavi e ti sembrava di avere la roba che andava in giro, che sfrutterà gli stessi studi, però decisamente più avanzati grazie alla tecnologia di oggi, insomma. Ok, vai Carlo. Ma io, vabbè, non lo so, davanti a questa disamina così chirurgica di... Basta, se andiamo a casa. Esatto. Il cappello, no, ma veramente mi tiro giù il cappello, perché diciamo non posso raggiungere le stesse vette, diciamo, dal punto di vista ingegneristico di come è fatto. Vuoi sapere perché? Perché lui è un ingegnere e tu sei un sound designer, sì, quindi sound designer, tu parli da sound designer e lui parla da ingegnere, ognuno deve dire la sua, insomma, giustamente. Premetto, io ho detto solo le specifiche tecniche, poi ci vuole la mano dell'ingegnere del sound designer. Appunto, esatto. Certo, sì, ovviamente, un po' come chi costruisce l'aereo e chi lo guida, ovviamente, insomma, O chi lo fa cascare pure. Uno non esclude l'altro, ovviamente. E io che ti posso dire, Simone? Ti posso dire che su Xbox Serie X c'è calma piatta, nel senso che comunque non è un mistero, e questo insomma l'ha fatto manifesto pure Microsoft in più occasioni, che comunque Serie X è sostanzialmente un po' la prosecuzione di quello che è stato la precedente generazione di console di Microsoft, nel senso nel momento in cui tu apri Xbox Serie X, la installi, la fai partire, prendi il joypad della scatola e ti trovi lo stesso joypad che avevi sulla vecchia Xbox e la stessa interfaccia che avevi sulla vecchia Xbox, dici vabbè, è un po' come, cioè qua mi sento a casa, insomma, so già bene dove mettere le mani, le cose sono rimaste le stesse, c'è qualche piccolo cambiamento dal punto di vista estetico e dal punto di vista funzionale, però di fatto la pappa quella è. Parlando di standard audio, Xbox praticamente abbraccia quelli della passata generazione. L'unica aggiunta, diciamo, di rilievo, ma questo rilievo poi è tutto da valutare, è l'aggiunta del DTS Headphone X, che è l'ennesima codifica, insomma, che è stata aggiunta al calderone dei già tre ben noti, che è lo stereo non compresso, il Windows Sonic, che ritorna a bomba pure questa generazione, e ovviamente il Dolby Atmos per le cuffie, e in generale, insomma, il Dolby Atmos, che comunque, insomma, sia questa che quella del DTS Headphone X sono comunque delle licenze da comprare a parte, diciamo, non sono incluse all'interno del fatto che tu abbia una Xbox Series X. Sostanzialmente le devi comprare, sono un acquisto, credo, anzi sì, sono sicuro, una tantum, quindi lo paghi una volta e non lo paghi mai più, hai la licenza per sempre. E di fatto, boh, non lo so, io da quello che ho potuto sentire, io adesso sto giocando a Assassin's Creed Valhalla su Xbox Series X, che non è un insulto, ricordiamo, non è Valhalla, sì, oppure Valhalla, lo chiama Andrea Di Pre, Assassin's Creed Vallata, e vabbè, Di Pre, insomma, non lo devi neanche nominare sta trasmissione, Di Pre, cioè, ti prego. Giustamente non sono così stupido, onestamente, ad essere onesti, quindi diciamo il mio settaggio audio è comunque un settaggio un po' sui generis, perché uno ovviamente parla tanto di 5.1, di 7.1, di Atmos e di quant'altro. Io invece sostanzialmente ho un setting per adesso, ma insomma non ho certamente fretta di cambiarlo, è 2.0, perché ho due, diciamo, diffusori molto importanti, posso definirli solamente così, che non sono dei diffusori commerciali, diciamo, partiamo da questo presupposto, e sono diciamo dei diffusori di fascia altissima professionale, e sostanzialmente, diciamo, questa è il mio settaggio per ascoltare film e videogame. Per quanto riguarda invece la cuffia, di cui io sono un grande sostenitore, e diciamo un po' gli ultimi anni, soprattutto da Xbox 360 in su, diciamo, non dalla passata generazione, da quella ancora prima, diciamo, è sempre stato un po' il mio scopo cercare, diciamo, mettere le mani su un hardware di rilievo da quel punto di vista, dal punto di vista delle cuffie. Sulle prime, ecco, non l'ho particolarmente mai apprezzate, perché, come dicevo giustamente prima, ero un seguace del 5.1, però con i diffusori e tutto il resto. Però devo ammettere che da quando ho avuto le mie prime cuffie, diciamo 7.1 virtuale, ovviamente, lì un po' mi si è aperto un mondo, e lì sono andato un po' a capire quello che in realtà i miei tra virgolette colleghi che hanno messo le mani dal punto di vista sonoro su determinati prodotti volessero trasmettermi nel momento in cui lo facevano, e da lì un po' ho capito anche quanto in qualche modo sbagliato tra virgolette fosse l'ambiente di casa, dal tempo la mia vecchia casa, dove io andavo ad ascoltare le cose che ascoltavo. Per cui, diciamo, sicuramente da quel punto di vista le cuffie sono ti danno la possibilità di immergerti molto, molto, molto di più di qualsiasi altro hardware in quello che tu stai andando a guardare. sono delle cose che ti allontanano dalle persone che ti stanno vicino? Assolutamente sì, come dicevi Simone tu prima. Non sono delle cose che tu puoi andare a utilizzare nel momento in cui guardi o ascolti un film con qualcuno vicino, a meno che magari anche l'altra persona non abbia le cuffie per, appunto, come diceva Arturino, della bimba che ovviamente che dorme, che uno non vuole disturbare, tutto il resto, lì ci mancherebbe. Però diciamo, in una situazione normale, guardarsi un film in compagnia è una cosa, non so, un po' una di convivialità, e per cui la cuffia non è il massimo. Però per un ascolto in solitario, soprattutto per quello che riguarda i videogiochi, mi viene in mente, cioè io vivo il mio essere videogiocatore in modo piuttosto solitario, sebbene insomma la mia compagna Eugenia, anche lei ogni tanto così si dimostra incuriosita dal videogioco, ma neanche poi tanto, insomma. Però comunque, appunto, questo potrebbe essere un vantaggio, diciamo, del fatto di viverla in solitaria indossando una cuffia, in modo che tu non rompi le balle i piccioni con una favola, non rompi le balle a chi ti sta intorno e chi non si può sentire i vichinghi che urlano se ti hanno una randellata in bocca, tanto che invece ti puoi permettere anche di avere un'immersione totale in quello che stai andando ad ascoltare, ed è bello, insomma, devo dire. Da questo punto di vista non mi colpisce non mi colpiva con la precedente generazione, non riesce a farlo neanche adesso, questo famoso Dolby Atmos per le cuffie, di cui ho anche la licenza. Non lo so, credo addirittura che, diciamo, il processore interno delle cuffie che utilizzo io, che sono nello specifico, per chi magari sta pensando all'acquisto di una cuffia, le Astro A50, quelle con la base station, sono delle cuffie wireless 7.1, devo dire che quel processore che hanno a bordo quelle cuffie lavora molto meglio di qualunque altra codifica sonora software che io ho provato fino adesso. Non ho provato il DTS Headphone X, posso provare a dargli un ascolto, così magari col periodo gratuito di prova ci voglio provare, ma onestamente non mi aspetto sta grande. Diciamo, l'effetto un po' che ti viene fuori da queste codifiche, secondo me è un po' un minestrone di sonorità, di cose, un po' ti imbastiscono un po' tutto, diventa tutto un po' viziato, diventa tutto un po' artificiale, anziché darti un'idea di reale spazialità dell'audio, ti giocano troppo sulle controfasi, sulle cose, cosa che secondo me l'operatore, fra virgolette, il creativo che ha messo mano dal punto di vista creativo e tecnico su quel prodotto, non vorrebbe che tu lo ascoltassi in quella maniera lì. Per cui, non lo so, io nel caso mio specifico, io lascio fare il lavoro a quello che è il chip all'interno della cuffia. Non mi metto a mettere ulteriori, capito, sovrastrutture al suono, sennò diventa veramente tutto un bordello e basta. Per cui non lo so, io a questo punto colgo l'occasione per aprire un sondaggio con chi ci ascolta. Dateci feedback magari sulla pagina Facebook, se avete anche voi ascoltato questa roba qui, per chi avesse, non so, l'Xbox, o comunque chi avesse la possibilità di andare ad ascoltare un suono spaziale, anche, diciamo, non utilizzando un hardware di alto livello, che cosa ne pensa, che qual è la resa secondo loro, qual è l'esperienza. Bene, sì. Sarebbe che bello sapere quanta gente in effetti è attenta a questo tipo di caratteristico, sono tutti più interessati al gioco e si hanno un paio di cuffie auricolari, non so, quello che capita, per sentire quello che sentono, ma senza andare troppo a fondo. Chissà quanti sono così addentro a questa tematica. Ma infatti, guarda, ti rispondo velocissimamente, Davide. Secondo me questa cosa la dicevamo anche su una vecchia puntata di Videoludica, che comunque mai credo, come in questa generazione di console si sia pubblicizzato, fra virgolette, il comparto audio, cioè il discorso audio. Cioè, avete, cioè, voi sulla vecchia PlayStation, sulla vecchia Xbox, sulle vecchie console, vi è mai capitato che la Sony, Microsoft o che ne so, Nintendo, ti è quello che sia, andasse a dire: noi abbiamo l'audio spaziale, abbiamo il chip Tempest, abbiamo il Dolby Atmos, abbiamo questo, abbiamo quello? No, semplicemente no. Adesso sì, adesso l'audio è diciamo è molto sugli scudi. Curiosamente, anche, devo essere sincero, anch'io non me l'aspettavo questa cosa, onestamente. Però adesso evidentemente l'audio sugli scudi probabilmente ha maggior ragione per quello che diceva Simone, perché adesso comunque la tecnologia ha subito un ribasso dal punto di vista dei costi e c'ha un'accessibilità incredibile, per cui adesso anche un ragazzino che per i 15 anni si fa regalare la cuffia che costa, per dire, 100 euro, come potrebbe essere la 3D Pulse stessa di Sony, che comunque sia promette in qualche modo di andare a, come dire, a farti, a darti un assaggio di quello che è questo famoso chip di audio di Sony, che a mio dire, non lo so, non me ne voglia Arturino, però secondo me da quel punto di vista siamo un po' lontani, diciamo, da quella che è quella che può essere la vera qualità audio su una cuffia Sony, per quanto devo dire, insomma, che ne ho sentito parlare benino, insomma, da sotto alcuni aspetti. A me poi piacciono molto le cuffie wireless, per cui quella sicuramente è un grande plus, il fatto che l'abbiano resa wireless, però insomma, per dirti tutto ciò, per dirti che comunque adesso con pochi soldi puoi andare ad avere, diciamo, in qualche modo ad aprirti un cancello che magari prima non sapevi neanche che stesse lì quel cancello, cioè puoi varcare una soglia che è appunto una soglia d'audio, visto che comunque sia, sì, del video si parla di 4K, fra un po' si parla di 8K, di 1000K, è quello sì, che parla a voi. Dal punto di vista audio invece se ne parla poco, per cui andare in qualche modo a pubblicizzare il fatto che tu c'hai l'audio super figo, secondo me adesso può essere un buon punto d'appoggio dal punto di vista del marketing, e a quanto pare la storia mi sta dando ragione, insomma. Beh, vabbè, noi abbiamo parlato non nella puntata precedente, ma due puntate fa sul discorso del 4K 8K, quindi se, insomma, avete chiaro, insomma, quanto siamo critici, insomma, rispetto a questo tipo di discorso, anche perché, vabbè, non riprendete, andate a recuperare la puntata. Bene, io direi che, vabbè, poi tra l'altro noi dobbiamo sempre tenere in considerazione anche il fatto che Sony e Microsoft cercano di costruire un micro universo che è completamente diverso uno dall'altro, perché comunque Sony è concentrata anche sul proprio hardware, no? Sulla la produzione di device per usufruire appunto dell'intrattenimento, dei contenuti multimediali, mentre che Microsoft è più concentrata sull'utilizzo anche del suo micro universo legato a Windows e via dicendo. Quindi insomma, alla fine c'è una differenza proprio di progettualità su questo, no? E non che una cosa sia migliore a quell'altra, insomma, questo è chiaro. E beh, comunque è stato abbastanza interessante, io penso che abbiamo dato uno spunto generale su questo tipo di discorso, poi chiaramente avremo modo, insomma, di avere dei feedback da parte di chi ci ascolta, e magari poi torneremo ancora a parlarne di questo tipo di discorsi quando poi giustamente a Carlo gli arriverà questa PlayStation che, come abbiamo detto, è stata comprata dai Bagarini. Esatto, sì sì, questa è una cosa veramente scandalosa, dai bot. Speriamo che non arrivi una roba cinese con dentro il mattone. Speriamo. Sì, tra l'altro c'era una specie di clone delle PlayStation vendite dai cinesi, che magari, sai, l'utente distratto, quello che proprio non ci capisce niente, magari sai quante volte ci sarà accaduto sopra. Bene, volete fare le considerazioni finali, Davide, Arturino, Carlo? Io a differenza di tutti voi sono meno giocatore, quindi sono un po' meno all'interno di questo argomento di qualità tridimensionale, eccetera, che non vivo in casa mia e non potrei, credo, neanche poterlo fare con gli strumenti che ho. Però devo dire che sono, adesso che ho sentito tutta sta roba qua, mi sono incuriosito notevolmente, avrei tanta voglia di provare, però mi sa che mi tocca prendere una qualche Xbox o PlayStation. le muffie a quanto pare. Ti tocca, è un sacrificio che devi fare per l'umanità, penso. In senso, c'avevo già il ditino quasi per cliccare sull'Xbox, perché sono più affezionato, non so per qualche motivo, all'Xbox. Però vabbè, questo è male, questo è chiaramente va a finire male. È chiaramente sbagliato. Arturino, invece, una considerazione finale? Ma io penso che le nuove console sono una finta nuova generazione, in realtà una super PS4, come la definisco io, e si sta lavorando solo il marketing, e noi siamo le famose cavie che accettano tutto. Vabbè, questo è così. È così da decenni, sì, appunto, cioè questo oramai è così da chissà quanto tempo in generale, come io ricordo sempre, lo faccio sempre in questa trasmissione, infatti penso che chi mi ascolta un po' mi odierà, che faccio sempre riferimento alla presentazione della precedente generazione di Xbox, quando i tizi salirono sul palco e dicendo: noi sappiamo di che cosa avete bisogno. E quando tu mi dici che tu sai di che cosa ho bisogno io, vuol dire che tu ti sei fatto una tua ricerca e mi stai convincendo che io ho bisogno di quella cosa, piuttosto che io ho veramente bisogno di quella cosa. Carlo? La mia considerazione finale è: non comprate le soundbar. Ma andate al bar, però. Assolutamente. No, non ho grandi considerazioni. Diciamo, sì, sono d'accordo con Arturino sul fatto che questa un po' è una sorta di mid generation, questa che ci spacciano per nuova generazione, e però evidentemente funziona questo messaggio, anzi probabilmente, ecco, la storia e questi spiacevoli aneddoti di bagarinaggio selvaggio veramente si sono verificati in questa generazione, che è veramente definire imbarazzante per le queste grandi catene di distribuzione è dire poco, e ci sono persone in attesa della console da luglio, capito, tipo me, no? Io l'ho preordinata a fine di luglio, quindi siamo fra un po' a febbraio, è ancora calma piatta da quel punto di vista. Però comunque sia, sì, sicuramente mai come questa generazione la fuffa è stata venduta a peso d'oro, e a quanto pare ha funzionato. Per cui staremo a vedere, magari, non lo so, ci darà delle buone soddisfazioni. Proprio ieri comunque si è visto lo showcase di Resident Evil Village, e chissà, insomma, lì sembra da quel punto di vista, insomma, dal punto di vista tecnico, tanto dal punto di vista video quanto dal punto di vista audio, sembra un bel passo in avanti, e sebbene io non sia proprio un grande appassionato della saga, che sostanzialmente sono un gran cagasotto, quindi mi fanno molta paura i videogiochi horror. Questa cosa nasce un po' dalla demo di PT, dove stavo rischiando veramente di morire. La Madonna, addirittura. Stavo veramente rischiando di morire, cioè stavo veramente, lasciavo vedova la mia compagna prima di sposarci, sarebbe stata una storia tristissima. Poi immagino i titoli del giornale, no? Muore per colpa dei videogame. Esatto, è colpa dei videogame, è chiaro. Però veramente lì stavo lasciando le penne, e da quel giorno non ho più giocato a giochi horror. Resident Evil 7 meno che mai, perché deve essere una cosa terribile. Vabbè, te capisco comunque. Però insomma devo dire che, ecco, questo Village, quantomeno dal punto di vista visivo e soprattutto sonoro, sembra promettere molto molto bene. E chissà, magari questa nuova generazione con i relativi orpelli sonori, corredo, potrebbero veramente fare la differenza, che cosa? Staremo a vedere. Bene. Invece tu ti lamenti, considera che in Belgio dicono. Che è successo in Belgio, Arturino? Arturino se n'è andato. Vabbè, comunque. Pare che. No, eccomi qui. Okay. No, in Belgio non è proprio arrivata. No, hanno annullato il lancio e rinviato a febbraio. È colpa dei bot, secondo me. Le macchine che dovevano arrivare qui le hanno rinviate o in Italia o in Germania, altrove. Eh sì, per forza, perché se le sono comprate tutti i bagarini, quindi alla fine in qualche maniera hanno dovuto fare. Ma non è la prima volta, anche col lancio della PS4 sì, sì. C'è la stessa cosa. Sì, ma mi sa che stavolta è stato shortage, che cosa è dovuto? Io non sono molto addentro. Secondo me non sono stati pronti a realizzarle, visto che c'è una richiesta della Madonna. No, allora, aspetta. Allora, la colpa Apple. In teoria. No, in pratica il shortage è dovuto al substrato che viene utilizzato per fare i chip, i wafer dei chip. quindi visto che ci sono tanti che le chiedono, Nvidia, AMD, Apple, Samsung, AMD non è abbastanza grande da competere con Apple e Samsung, e loro si sono presi tutto. Beh, c'è anche da dire che per quanto ci siano dei problemi di produzione, poi come dicevamo con Carlo, in realtà poi ci sono tutta una serie di società barra associazioni che hanno comprato a man bassa tramite l'ausilio di bot queste console, per poi rimetterle sul mercato a 300-400 euro di più, come se alla fine la gente fosse così disperata da dover aver bisogno di una PlayStation 4 e pagarla 800 euro anziché 400 euro, insomma. Quindi è una cosa veramente deprecabile, che è già successa nel passato. In questo caso penso sia stata maggiore, e io faccio fatica a pensare che grandi multinazionali come Microsoft e Sony siano in grado di permettere una cosa del genere, anche se dicono vabbè, non lo potevamo impedire, ma cioè, vedi, è ridicolo. Nel momento in cui ti sei accorto che c'è un qualcosa che non funziona, blocchi tutto, perché ci sono utenti che veramente aspettano da mesi, e avendola magari già prepagata, insomma, è una cosa assolutamente vergognosa. Vabbè, detto questo, comunque io vi ringrazio a tutti, vi ricordo che venerdì prossimo torniamo con Ludico Forum, con una puntata che si intitola Storie di principesse, cavalieri e spade lucenti. Chiaramente è una puntata interamente dedicata all'universo di Star Wars, relativo ai film, ai giochi, ai videogiochi, ai libri, quindi insomma tutto quello che è un po' l'universo di Star Wars. Domani sera, cane permettendo, ritorniamo alle 23.30 con Runtime by Night, la trasmissione che facciamo di notte, la nostra talk radio notturna come si faceva una volta. E vi ricordo che domenica invece alle 21 c'è Michela con Mono, una bella puntata dedicata alle canzoni ispirate al viaggio, zaino in spalla. E l'ultima cosa che vi ricordo è che lunedì, a parte che inizia la programmazione settimanale normale dei podcast di Runtime Radio, inizia ufficialmente lo streaming della web radio. Lo stiamo pubblicizzando in maniera moderata, questa cosa poi piano piano prenderà sempre più piede, anche perché è una fase sperimentale basata sul controllo della regia automatica, quindi praticamente sull'automatizzazione degli orari, di tutto quello che è la schedulazione, insomma, delle varie cose, e poi piano piano arriveremo con le dirette. Lunedì sera probabilmente proprio nello streaming della Radio 24 ci sarà una festa di inaugurazione in diretta esclusiva su www.rantemeradio.it, che è il nostro sito ufficiale. Da lì ci sono le tre icone, a seconda del player che utilizzate vi fa scaricare il file, che poi mandando in esecuzione sentirete la diretta finché vi va, insomma. Detto questo, io ringrazio e saluto Carlo Burigana e spero di rivederlo prestissimo, insomma, di risentirlo prestissimo nelle nostre trasmissioni. Grazie a te, grazie a voi, ringrazio i miei sodali, i miei colleghi di trasmissione, e ringrazio anche tutta la chat che ci ha seguito fino adesso, e ovviamente anche chi ci ascolterà in differita, insomma. Perfetto. Aspettiamo sicuramente i vostri commenti, soprattutto quelli in differita. Bene, ringrazio e saluto ovviamente la partecipazione importante di Arturino Mazzei, che adesso torna a fare il papà, perché giustamente lo restituiamo alla sua famiglia. Vi ringrazio per la serata, è molto un piacere stare con voi. Ciao a tutti. E ringrazio e saluto Davide Gatti, insomma, ritroveremo martedì su Survival Hacking nella sua puntata settimanale che è ricominciata, e ovviamente il suo canale YouTube, sempre Survival Hacking, cercatelo, iscrivetevi, attivate la campanella e cazzi e mazzi. Il mercoledì, così abbiamo fatto quasi tutta la settimana. Il mercoledì, giovedì, sì, e venerdì. Sì. No, giovedì e venerdì ci sono altre cose che escono, Gatti. C'è sempre qualcosa di giovedì realtà. Torna archeologia videoludica. Attenzione, ragazzi, ancora non vi dico niente, però state pronti. Ciao a tutti e ci vediamo la prossima settimana. Voi rimanete un attimo lì, un secondo di pazienza, e torno da voi. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.